Attenzione, quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti privi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. We come and rapper every time. Hey, hey, hey, hey. We come and rapper. Io te l'avevo detto. Bentornati e bentornate. Ciao a tutti e a tutte, e all'ascolto, al microfono, anzi, io te l'avevo detto, la trasmissione ironico-satirica di Radio Andreros. Aspetta che i compagni si sono offesi perché non l'abbiamo fatto ancora. C'è la bruciata. Hai ragione. È la prima volta in assoluto. C'hai ragione, avete ragione. Perché allora ricominciamo, cari compagni e cari compagni, benvenute a Io te l'avevo detto. Va fatto un po'. Propongo una cosa. Applausi dal pubblico in sala, che ringraziamo. Esatto. Veramente ampi, proprio da paura. Io proporrei di registrarla sta cosa. Guarda, ce l'abbiamo già registrata. Cioè, capito? Basta. Senti. Vedi? Meglio. Va bene, va bene, va bene, va bene. Meno pathos, però meglio. Bentornati a tutti e a tutte. Io te l'avevo detto, domenica 30 maggio, ore 18 e 12 minuti in più, minuti in meno. 30 maggio. 30 maggio, sì. Siamo arrivati, l'estate è arrivata e qui a Roma, insomma, si cominciano a sentire temperature che salgono e bene, i miei pomodori crescono. I pomodori crescono. Fantastico. E i ciclisti e le cicliste sudano, sotto, crescono pure, crescono. Infatti oggi andremo a parlare proprio di bici e tutto quanto quello che riguarda la locomozione motoria spinta da muscoli degli esseri umani. Quindi c'è Mona, ci siamo divertiti, ci siamo andati, cioè nel senso io ci sono andato visto, che, ecco. Visto che la mia redazione è praticamente un conglomerato di sole, di vecchia, di vecchia, di vecchia, è giusto, di vecchia data. Ha ragione. E d'altronde la domenica pomeriggio comincia ad essere sempre più impegnativa, sempre più pesante. Infatti magari ci spostiamo al sabato sera dopo Disaccordo, la settimana prossima. L'abbiamo che ne già pensate? L'abbiamo già detto la settimana scorsa, l'abbiamo preannunciato, chissà. Chi lo sa? Magari ci sarà questa svolta di sabato sera. Chi lo sa, chi lo sa? Ci facciamo prendere dalla febbre. Comunque appunto, io te l'avevo detto, siamo in leggero ritardo, anche se siamo appena partiti, infatti, come il nostro solito ci andiamo a sentire, se i compagni sono d'accordo, così la prima canzone della giornata, così, adeguato. Che è diventato un rito. Ah, un rito addirittura, vedi? La ritualità. Beh, è un rito, ormai è diventato un rito. Intro, presentazione della puntata, canzongella spezzellata. Il problema è quando diventerà un culto. Finché è un rito va bene, ma il culto noi siamo un po'. Vai. Va bene, dai, ci sentiamo una canzone. Dai, a tra poco. Ciao. Un eterno paradosso, un introverso, fermo e con i fari addosso, e non affondo. Ora so nuotare a dorso. Lascio l'abisso alle mie spalle, vago nel pantarei. Hey, ma sono un fottuto paradosso che cammina come Tyler. Già, vivo in un mondo dove sono sempre tutti contro my pair. Ho i piedi a terra ma gli unicorni sui calzini, e queste bodyguard erano i miei bulli. Un adulto che fa un genere da ragazzini, tanto ai ragazzini piace la roba per adulti. Caffè classico costa un deca, io classico deca. Mi butto come con l'audassi il mio paracadute. Avrei meno pensieri se lavorassi alla zecca, perché mi mettono a far soldi e mi pagano pure. Trattate la cultura con i guanti di OJ. Ho avuto un crollo, facevo la guida a Pompei, ma se fallisco produco il mio colluttorio. Vuoi parlarne male? Sciacquati la bocca prima, ok? Vivo un eterno paradosso, un introverso, fermo ancora i fari addosso, e non affondo. Ora sono dare a dorso, lascio l'abisso alle mie spalle, vago nel pantarei. ucciso, pianto sani dubbi. Tolgo voce agli allarmisti, ladro di antifurti. Io tra questi nuovi artisti vedo tanti furbi, colorati e non sanno parlare. Del resto anch'io facevo Tarzan nella mia dimora, come Baltimora, poi la piazza che mi fa la ola. San Giovanni in Roma già si narra che la vecchia scuola tornerà di moda quando accadrà. Però roba viola, le mani a pistola. Mi nutro di paradossi, c'è una casa d'ospiti. Mi godo gli aghi nei boschi, mando in paratossici. Guardo la libertà negli occhi di un tiranno che sbava ordini, credimi. Vivo un eterno paradosso, un introverso, fermo con i fari addosso. E non affondo, ora sono paradosso. Lascio l'abisso alle mie spalle, vago nel pantarei. Sono un sognatore sveglio, proteggo me da me stesso. Una security camera che punta dritto allo specchio. Per gli amici sono snaporaz, cito sempre 8 e mezzo. Non ho più niente da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vivo, vivo un paradosso, paradosso, paradosso pari a me. Vivo, vivo, vivo un paradosso, paradosso, paradosso pari a me. Vivo, vivo, vivo un paradosso, paradosso, paradosso pari a me. Vivo, vivo, vivo un paradosso, paradosso, paradosso pari a me. Vivo, vivo, vivo un paradosso, paradosso, paradosso pari a me. Vivo, vivo un paradosso, paradosso, paradosso pari a me. Vivo, vivo, vivo un paradosso, paradosso, paradosso pari a me. Vivo, vivo, vivo un paradosso, paradosso per adesso sono vivo. Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa. Ricordiamo a tutti e a tutte che allo 06 49 17 50 potete chiamarci e insomma commentare con noi. Un compagno ci ha chiamato mentre abbiamo, esatto, mentre abbiamo mandato Caparezza. Infatti ci diceva che è stato anche lui la Cemmona, che anche se effettivamente è un abituato a andare in bici, comunque dice che è stata tosta, non è, insomma, è lunghetta. Ma vedremo poi. Guarda, io ti posso dire che il primo giorno, che poi più tardi commentiamo anche con Cobol, che abbiamo sentito anche già un annetto fa, che non so, esatto, se vi ricordate, proprio questo, cioè, è il compagno che ci ha rivoluzionato la visione del mondo della bici, esatto, della vita del ciclista in città. Comunque il primo giorno, diciamo, è stato molto figo, molto faticoso, però insomma sia io che la mia compagna futura non siamo nessuno dei due grandi esperti pedalatori, però insomma ce l'abbiamo fatta. Dillo che sei un macchinaro convinto, dillo. Guarda, ho messo sta canzone che parla appunto del paradosso, perché sì, purtroppo insomma mi sono sentito molto spesso schiavo della macchina, soprattutto lavorando fuori Roma, anche se comunque mi sono molto spesso mosso con i mezzi, comunque sempre molto molto molto dispiaciuto, insomma. Scusa, ma compra una e-bike, no? Compri l'e-bike e vai. Guarda, l'e-bike è un capitolo molto, anche gli incentivi, molto scivoloso, però, perché insomma tutto quanto quello che riguarda insomma, le batterie, insomma, poi io te lo dico apposta, c'ha tutto quanto il risvolto che, come sappiamo, come abbiamo trattato molto spesso da questi microfoni, insomma, anche lì c'è un bel paradosso, no? Cioè, nel senso, va a mettere una batteria per risparmiare energia, poi la batteria va smaltita, va buttata da qualche parte, dove la mettiamo? Esatto. Se prende poco sta batteria, come la spegniamo? Vabbè, queste e tante altre domande le affrontano i compagni in maniera molto più seria di noi, che soprattutto è un problema che ti serve, automobili che hanno batterie più grandi. Comunque, restiamo un po' sul pezzo, parliamo di Cemmona, facciamo un po' di storia per chi non la conosce. Che cos'è la Cemmona? Perché la Cemmona, diciamo che è l'evento, la declinazione italiana della Critical Mass. Critical Mass, okay. Esatto. Quindi la Critical Mass che cos'è? Da dove viene? Senti, come è partito fomentato, ho studiato io. Vai, Giacomo, così te volevo. Giacomo ha studiato, vediamo se la teoria basta no, anche per la pratica. Purtroppo, vai. Purtroppo non c'è nessuno più lontano di me dal poter illustrare tali pratiche sane e giuste. Io purtroppo sono insano, vai, e ingiusto. Quindi, no, vabbè, comunque la Critical Mass, diciamo, nasce nel 92 a Los Angeles, insomma, da un gruppo di Los Angeles, un gruppo di biciclettari ribelli, insomma, che capitanati da un valente biciclettaro, di cui magari poi più tardi ricorderemo il nome. Esatto. No, lui era bravo, no, vabbè, la signora comunque va come gli pare qua sotto, non è che so io che c'è. Insomma, a Los Angeles lui voleva andare al lavoro in bici, però questa operazione risultava particolarmente scomoda in una città come Los Angeles, perché c'erano le ciclabili all'inizio degli anni 90. Tu pensa, una città che è grande come l'Abruzzo, la ciclabilità evidentemente a quanto pare era difficile. Probabilmente lo è anche oggi, secondo me. Io non ci sono stato mai a Los Angeles, ma mi azzardo in qualche ipotesi. Però comunque in Abruzzo è difficile. In Abruzzo, se ti piace la salita, hai vinto, capito? Cioè, la salita, basta. E quindi anche la discesa, ma comunque, nel 92 questo mo lo troviamo, Chris qualcosa. Si mette in mente che è necessario utilizzare la bicicletta non più come solo un mezzo di locomozione, ma come uno strumento politico. E quindi che cosa fa? Convince dei suoi amici a piazzarsi. Non solo persone, ma anche messaggi. Esatto, e convince dei suoi amici a piazzarsi con la bicicletta per strada, camminando lentamente o più o meno lentamente, con l'idea di occupare spazio e quindi rallentare la mobilità della città, così da garantire la sicurezza e la ciclabilità in genere. Quindi che succede? Che piano piano, di anno in anno, la cosa è diventata più grande e in varie città del mondo la cosa è stata declinata con vari nomi. A Roma, insomma, c'è la Ciemmona, che CM Critical Mass. Esatto. E appunto come ci illustra, come ci illumina, ovviamente, che come dire, esatto. Vabbè, comunque a Barcellona si chiama Criticona, una cosa del genere, quindi in poche parole, insomma, che succede? Per chi parla come magna, cos'è la Critical Mass? Occupiamo la strada con le biciclette. Diventiamo noi il traffico, visto che tutto quanto l'anno siamo costretti a combattere con voi che ci intossicate con i tubi di scarico, fate a gara per arrivare prima e per chi fa 50 centimetri avanti a quell'altra, eccetera. Noi per 2-3 giorni l'anno, ma anche in maniera un po' più piccola, l'ultima settimana di ogni mese, diventiamo il traffico, vi blocchiamo, vi mettiamo in mezzo alla strada. E una delle cose più belle, non so. Vai. No, era Chris Carlson, il fondatore della Critical Mass, l'ideatore della Critical Mass. Vai. Una delle cose più fighe per me, che è stata la prima volta che sono andato alla Critical Mass, è stata vedere prima di arrivare. Ok, sono partito da casa alle 5:30 per l'appuntamento alle 18 qui a San Giovanni, e praticamente già all'inizio di Scalo San Lorenzo ho cominciato a vedere l'effetto delle persone che arrivavano alla Critical Mass a San Giovanni, perché già tutti quanti si cominciavano a bloccare. E quindi io, sempre con futuro, in mezzo al traffico, le nostre biciclettine, alla quale io giustamente avevo montato la bandiera pirata, perché insomma, come da buon pirata, è un esibizionista. No, vabbè, nel senso, io se devo partecipare a una cosa, per divertirmi, mi diverto già, nel senso, non ce l'ho le mezze misure, per me sono una cosa borghese. Quello che è giusto è giusto. Sì, è una cosa borghese la mezza misura, e il senso della misura non mi piace. Eccolo. Quindi a un certo punto vado a fare proprio lo squalo in mezzo alle macchine, così, stavo fighissimo. A un certo punto mi è volato il cappello, mi è volato il cappello mentre facevo appunto il matto in mezzo al traffico. Ho detto: non posso inchiodare perché tanto se non vengono addosso. Invece no, perché stavano tutti fermi, tutti bloccati. Quindi poi sei arrivato a San Giovanni e vabbè, bello, sì, bloccare il traffico, sì, fighissimo. È una cosa altamente infame, se ci pensi. All'ora di punta del venerdì, quando già io te vengo, sì. Esatto, ma perché a noi proprio ci piace essere, come dire, fastidiosi, ci piace fastidiosi. Proprio, noi siamo in cerca del consenso, è evidente, cioè proprio queste sono cose che fanno consenso, no? Perché poi una delle cose più belle, no, è che a un certo punto non si sa, cioè perlomeno quello che mi è sembrato di capire, poi ci confermeranno i compagni e le compagne che andremo a sentire, non si sa mai qual è il percorso, cioè si scopre e stata facendo, no? Chi sta davanti, mi sembra di capire, che decide che strada famo, una cosa del genere. Ah, vabbè, a naso, così. Esatto, sì, una cosa molto molto fricchettone e free sotto questo punto di vista, che funziona anche molto bene, e quindi la rende anche abbastanza ingestibile come situazione, molto figo, sì, molto figo. Sì, molto molto figo. E appunto, come dicevo, in alcuni punti tu ti trovi proprio dove bloccare il traffico da una parte e dall'altra, devi bloccare le macchine perché deve passare questo fiume di gente, perché comunque si è in tanti e in tante, cioè ok, è proprio una cosa. E quindi poi c'è sta gente lì davanti a te che comincia a sbroccare. Dicevo, ma voi dovete farla sapere che fate sta cosa, perché è giusta sta manifestazione nel frattempo che rosica. Dice, giusta, però mi dovete far passare. Poi oggi invece, mentre che stavo sulla casetina lontanissimo in periferia, c'era il cartello La Cimemora, quindi non è che non lo facciamo sapere, è che non volete capire. La cosa è un'altra, come, come su tanti altri argomenti che riguarda la cosa, che non vuoi capire, non è che non te lo famo sapere, siete che non vuoi capire. Vabbè, quindi esatto, niente. Perché appunto si ragionava anche sul su quanto la bicicletta sia un problema proprio dal punto di vista economico, per il nostro, sì, ma no, per noi no, un problema per loro, per il buon vecchio sistema capitalista la bicicletta, per lo zio Sam esatto, per lo zio Sam è un cazzo di guaio, perché la bicicletta intanto non consuma carburante, quindi tu non compri benzina, quindi non compri neanche la macchina il più delle volte se usi la bici, se puoi usare la bici, e qua ne parliamo dopo perché non sia mai, però se puoi usare la bici non compri la macchina, il più delle volte sei anche una persona mediamente sana, perché se, certo, se vai con la vivi bici più a lungo, esatto, per se, esatto, poi vivi più a più lungo, anni di pensione, maledizione, cioè, capito, è una cosa maledizione, cioè fermatevi, cioè finché siete in tempo fermate, basta, ammazziamoli tutti prima, esatto, perché altrimenti la nostra economia si sfracasserà al suolo, finalmente, e monossidosia, quindi esatto, monossido proprio a go go, a go go, monossido. Esatto, perché dopo dobbiamo affrontare pure il problema della mobilità all'interno di questa bella e meravigliosa e grande ed immensa città, anche troppo immensa, tanto immensa che è una delle problematiche. Ne parleremo dopo. O ne parliamo adesso? Ah, giusto. No, ne parliamo dopo. Dopo la pubblicità. No, bravo, bravo. Sì, sì, dopo la pubblicità, perché noi, io te l'avevo detto, siamo specializzati in pubblicità. Naturalmente noi tutti quanti general manager, marketer. Esatto. E quindi abbiamo pensato a una pubblicità a sostegno di Radio Onda Rossa, che avete già sentito la settimana scorsa, ma ve la riproponiamo. Esatto, perché ma quelle nuove ancora arrivano. Va bene? Ok. Vai. Zan zan zan zan. Movimenti di teutonica memoria hanno innalzato la montagna dell'ignoranza sulla cui vetta tiranneggia l'occhio infame del capitalismo, che con interventi mirati come laser brucia la resistenza degli uomini giusti. Ma dall'altra parte dell'appiattimento culturale, sulla montagna dell'informazione senza padroni, i ripetitori di Radio Onda Rossa mantengono la loro strenua resistenza. Diventa anche tu radioascoltatore resistente. Oh mamma mia, ma quanto la fai tragica. Guarda che partecipare alla campagna del 30 per 1000 di Radio Onda Rossa è facile. Vai sul sito radioondarossa.info, clicca sul banner dedicato alla campagna e sostieni la radio libera e indipendente. Se proprio vuoi ce li puoi portare anche a mano, altrimenti veniamo noi sotto casa tua. Dal 1977 veniamo sotto le vostre case per battervi i soldi, esatto, Radio Onda Rossa. Esatto, esatto, organizziamo. Che non campa d'aria, esatto, ricordamolo, ma pensite sforzi. Sì, perché siamo gli unici che fanno la pubblicità, diciamocelo, cioè l'unica cosa che proviamo a vendere, sì, qualcosa, sì, siamo noi, oltre. Esatto, noi però che sia ben chiaro, stesse, tutto Kleptofer. Se no, ti serve, rubalo. Mi sembra no, abbastanza adeguato. Se non ce l'hai, rubalo. Esatto, ma, io okay, stavo per fare la correzione, non volevo fare bacchettone, ma era sì, non ce l'hai, rubalo. Vabbè, dicevamo che la mobilità, sì, dentro questa città con la bicicletta è imbarazzante, perché ad esempio chi vive in periferia ha un grosso problema quando decide di utilizzare la bicicletta per spostarsi magari da un quartiere a un altro, semplicemente, non solo per arrivare al centro della città, perché magari se io volessi, ad esempio, io vivo a Torbella Monaca, voglio spostarmi ed andare al Forte Prenestino. Questa cosa ci fa particolarmente ridere perché l'analizzavamo nei giorni passati. Sarebbe un'avventura non di poco conto, perché con la bicicletta bisognerebbe partire dal ridente quartiere di Torbella Monaca e scegliere se andare sulla Casilina e quindi decidere di morire. Giacomo, tu l'hai mai fatta questa cosa? No, certo, ci ho provato, l'ho fatto. Dipende dalla bicicletta. Attenzione, che Giacomo ha detto che l'ha fatta, cioè, a me sembra una cazzata. No, non con la bici, perché ovviamente non con la bici, non ce l'ho bici, con la bici. Jack, dipende che devi fare tu, se con che te presenti. Esatto, con la Graziella Rosa. Oh. con la mia bellissima, non è mia, è della mia compagna, bellissima Graziella Rosa, rosa ruggine, però attenzione, cioè un rosa indotto dal... E poi dice a me che sono esibizionista, magari era blu la divisiva sta cosa, cioè. non per una questione di genere, per una questione di buche, perché fondamentalmente avrei dovuto scegliere la casilina o la prenestina, il che intanto ci devi arrivare. Sulla prenestina non ti dico, sulla casilina quasi quasi, ma la devi fare. E come si fa ad andare in bici sulla casilina? Dove si passa sulla casilina per andare in bici? Tutta su una ruota a mezzo. No. Contromano. Ritenta. Non si sa. Devi inventarti una strada. Guarda che abbiamo la possibilità pure di fare un conto. Vabbè, comunque, se vuoi... Iniziamo a fare. Dalla periferia per arrivare in qualsiasi punto della città non si può fare. Se ti vuoi muovere dentro al quartiere, rischi per un breve raggio. Poco, però rischi. Ma dentro al quartiere, quindi... Ma se vuoi andare fuori, addio. Addio, lasciate le speranze o voi che partite. Comunque, ci andiamo a sentire il nostro consueto Fake News 24. Che ho scoperto, regà, che già da un'altra parte girava sto fake news. Bisogna dirglielo al compagno Ivano Scalabroff, che qua cazzo, ci continuano a solare idee a rotta di collo. Cioè, è una cosa veramente Roma. Comincio ad avere un friccicolio. Ma noi, comunque, vedi quante cose. Perché si prende spunto. Sì, pare, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ci fa felice. Basta che sottoscrivono la radio, va bene. Dai, esatto. Quindi fake news, sempre Agenda Rossa, sempre te l'avevo detto. Dai, quanto è venale sto ragazzo, ma. Ciao ragazzi. Buonasera e benvenuti a Fake News 24. Le notizie di oggi. Confindustria dà una nuova lettura della tragedia del Mottarone, Draghi e i vitalizi, Pillon colto da malore. Dalle prime indagini sulla tragedia del Mottarone sarebbero emerse le responsabilità del capo operativo che avrebbe bloccato i freni di emergenza della funivia per evitare di dover fermare l'impianto ed eseguire i lavori di manutenzione. Siamo costernati per le 14 vittime, ma non possiamo che applaudire alla manovra, avrebbe dichiarato Confindustria. È logico che le aziende, soprattutto in questo periodo di pandemia, risparmino sulla sicurezza delle strutture oltre che sul costo del lavoro per poter mantenere i profitti. Anzi, i tempi sono maturi per varare una nuova legge che scarichi la responsabilità sui clienti. Non è possibile che chi decide di partecipare ad un evento voglia fare un giro su un'attrazione turistica o voglia divertirsi in un qualunque modo pretenda di farlo in sicurezza, avrebbe chiosato il sindacato degli imprenditori. Continuano le polemiche per la restituzione dei vitalizi ai politici che hanno ricevuto una condanna definitiva, ma il presidente del Consiglio Draghi spiega la scelta del Consiglio di garanzia. Dopo la pandemia da Covid, la società è stata sconvolta da cambiamenti sociali profondi che avranno ripercussioni durature sulle persone e sul loro stato psicofisico. La scelta del Consiglio di sicurezza va letta nell'ottica di restituire ai cittadini dei punti fermi, tra i quali la disonestà dei politici e la loro faccia da bronzo. Il politico della Lega Nord, Simone Pillon, conosciuto per le sue posizioni retrograde, omofobe e sessiste, sarebbe stato colto da malore alla notizia che Samantha Cristoforetti sarà a capo della Stazione Spaziale Internazionale. Il politico sarebbe stato colto da shock culturale e adesso sarebbe ricoverato in preda ad attacchi di panico e delirio da scollamento dalla realtà post-traumatico. Stiamo cercando di farlo venire a patti con la realtà, hanno dichiarato i medici. Ma per uno che è convinto che le donne possano fare solo ostetricia, attenzione, non medicina, solo ostetricia, accettare che una donna sia a capo della stazione spaziale è quasi impossibile. Dobbiamo cercare di salvarlo per continuare gli studi e capire come fa un essere umano ad essere così limitato. E per i Fake News 24 è tutto, buona serata e linea allo studio. Grande Ivanov, il compagno che si occupa del fake news. Sì, però infatti dobbiamo chiedere a Ivano di smetterla di sparare sulla Croce Rossa, perché cioè prendersela con Pillon è veramente facile, dai, ragazzi, non si fa. Cioè è proprio indelicato, dai, povero Pillon. E va bene. Dunque, eccoci qua, tornati. Io faccio una telefonata direttamente perché... su. Io te l'avevo detto, 87.9. Dobbiamo parlare con un compagno invece che ne sa molto di più. Vediamo se risponde. Interventino. Vediamo se risponde. Pronto? Pronto? Pronto? Ecco. Oh, bella. Ciao. Bella cobola. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Applausoni dal pubblico, di io te l'avevo detto. Quanti siete? questi qua veramente. Applausi sulla fiducia. Vabbè, sulla fiducia noi, come abbiamo detto, già l'abbiamo sentito, quindi certo, ci vediamo esatto. Ciecamente, insomma. Esatto. Non è come di applauso sulla fiducia quando dici, sai, vado a vedere un gruppetto che non conosco. No, è un applauso diverso, è un applauso fiducioso, ecco, mettiamola fiducioso, così. Fiducioso. Infatti grazie a Cobol che, insomma, li sta qui insieme a noi dopo. Grazie a voi. Dopo quasi un annetto che ci siamo sentiti la prima volta, che praticamente hai rivoluzionato il modo in cui noi vedevamo il moto sulle ruote spinte dall'essere umano in città, quindi veramente dopo muscolo propulse, esatto, veramente una cosa allucinante. Poi ecco, tu sei anche lupo ciclista direi, quindi con l'ultimo contributo del fake news vi stava pure abbastanza bene, come sì, c'era è vero. Allora, innanzitutto io ho pensato di chiamarti proprio per ringraziarvi per avermi fatto conoscere sta roba qua, perché è veramente una cosa potentissima e fighissima, per innovare insomma anche i vari inviti che si continuano a lanciare intorno alla Cemmona. Allora sì, insomma, diciamo, questo è stato il terzo e ultimo giorno di Cemmona 2021. Dopo un anno che la Cemmona, che si fa tutti gli anni, sempre l'ultima settimana di maggio, era venuta a mancare perché appunto nel 20 non era stata fatta, nel 19 era tornata a Roma dopo un po' di anni, e si tratta in realtà di un grande raduno di biciclette. Cemmona sta per in realtà Critical Mass Interplanetaria, cioè ovvero una Critical Mass, quindi un raggruppamento di ciclisti che è un po' più grande di quello del solito, che invece si consuma ogni ultimo venerdì del mese nelle varie città. Leggermente più grande, sì sì, no, diciamo che dopo un momento di flessione anche della Critical Mass, io parlo per quella romana, dopo un momento di flessione di qualche tempo fa in cui insomma i numeri erano diventati un po' più esigui, ultimamente anche la Critical Mass mensile, quella che appunto si fa ogni ultimo venerdì del mese, sta riprendendo un po' di forza e di vitalità, portando avanti sempre quelli che sono le sue prospettive, che lo ricordo non sono prospettive contro nessuno, ma sono le prospettive di creazione, almeno per un momento, di una viabilità e di una città a misura di bicicletta ma anche di pedone, e quindi non solo più di automobili sfreccianti, e quindi di ricreare per un momento, nella sua occupazione temporanea dello spazio che pratica spostandosi lungo la città, creare un'immagine un po' diversa, riappropriandosi dello spazio urbano. E lo dicevi, tu l'hai visto, in realtà la Cemmona è una grande festa. È una festa in cui le biciclette possono circolare tranquillamente, in maniera serena, in quegli spazi che generalmente sono omicidi perché attraversati senza proprio limiti dalle automobili in corsa, quindi spazi preclusi ad anelli deboli come bambini o come persone che magari non hanno una grande esperienza sulla bicicletta ma che sulla bicicletta vorrebbero andarci. Insomma, noi ci siamo fatto un po' l'abitudine a pensare le strade come dei luoghi omicidi, no? Dei luoghi in cui bisogna avere paura, in cui bisogna stare attenti per la propria vita. Questo non perché la strada si configuri come tale da sempre, ma perché in realtà una politica libera tutti sull'automobile e sull'uso dei combustibili, che insomma incrementa poi la politica stessa che sta dietro a quella dell'automobile, ha reso le strade tali, e noi ci siamo abituati a pensare che se mi distraggo e metto un piede sbagliato su questa linea della morte posso essere travolto, e insomma un po' è colpa mia, perché dovevi stare attento, lo sai, nella città ci stanno le automobili che possono ammazzare. Insomma è una cosa strana, ci abbiamo fatto l'abitudine, ma è una cosa strana. Ecco, quindi dico, insomma, in questi tre giorni le biciclette si riuniscono e in qualche modo danno un'immagine diversa della città. Ovviamente nessuno ha l'utopia di pensare che la città possa diventare una strada con feste permanenti, però in qualche modo la festa temporanea che la Cemmona produce, che anche la Critical Mass produce mensilmente sulle strade, è una prefigurazione di alternativa, di mondo alternativo. Bene, bene. Senti, io ti volevo fare una domanda che è anche un po' una provocazione, ecco, prendila un po' per quello che è. Per quanto riguarda ad esempio la mobilità nella periferia di questa città, la critical mass, o comunque è stato mai affrontato questo problema? Perché ne parlavamo proprio prima, insomma, la mobilità dentro questa città, soprattutto per chi viene dalla periferia, è un problema enorme. Come si può rispondere a questa provocazione, diciamo? Allora, guarda, la critical mass non, diciamo, collettivamente non si occupa di, nel senso, appunto, è una grande riappropriazione di spazi che avviene in un dato momento, in un dato tempo. Non esiste una sorta di organizzazione della critical mass che fa, come dire, fa opinione o che comunque prende punto, prende posizione su questa questione. Io ti posso rispondere personalmente. Io credo che il problema della viabilità in generale certo non possa essere risolto dalla bicicletta. La bicicletta è strumento, se vuoi, residuale in una città a modello in cui i mezzi pubblici funzionano, in cui il trasporto pubblico è il primo assoluto vettore della città stessa. A quel punto tu hai liberato la strada e all'interno possono trovare spazio tutti quei mezzi che non sono l'automobile, che da mezzi, appunto, soprattutto mezzi muscolopropulsi, diciamo, quelli che poi promuoviamo noi, quindi la bicicletta, che possono trovare una loro nicchia importante all'interno di questa città, in cui però fondamentalmente è servita in maniera coerente, in maniera, diciamo, non a macchia di leopardo, da mezzi pubblici che funzionano e sono in qualche modo puntuali. Quindi io credo che qualsiasi battaglia, anche se parte dai ciclisti, qualsiasi battaglia coerente, o comunque qualsiasi battaglia che ha a che fare con la mobilità, debba avere a che fare con la rivendicazione di un servizio pubblico efficiente, che non si, appunto, diciamo, non mal distribuito sul territorio, come invece Roma e tante altre città evidenziano, no? Quindi con un centro tutto sommato ben servito, ma con delle periferie completamente lasciate allo sbando, che incentivano inevitabilmente l'utilizzo, no? Quindi, insomma, la cosa sembra quasi fatta apposta. A questo punto uno ha il dubbio che forse è fatta apposta, che incrementano l'utilizzo del mezzo privato. Quando dico mezzo privato ci metto dentro pure le biciclette, perché appunto non è che nessuno va costretto a utilizzare la bicicletta perché magari non si può permettere la macchina, ma non ha mezzi nel proprio quartiere. E ognuno dovrebbe essere libero comunque di avere una mobilità uguale a quella degli altri, grazie al fatto che esiste un servizio pubblico che è all'altezza di questo nome. Noi qui a Roma ce l'abbiamo addirittura commissariato, insomma, diciamo, quindi voglio dire, questa è una contraddizione grossa come un oceano. Infatti mi lanci l'assist proprio per parlare un po' di quello di cui prima ci interrogavamo, prima della trasmissione, cioè del senso politico della critical mass, cioè, o comunque della politicizzazione della critical mass, di dare un'utilità concreta a questo strumento, perché a questo punto la critical mass non è altro che uno strumento che veicola una nuova concezione della mobilità, e di conseguenza il discorso che fai tu sul tenere unito il punto di vista della bicicletta, che si integra con un servizio pubblico dignitoso, penso che risponda molto molto bene a questa esigenza. Cioè, non possiamo staccare l'uso della bici da rivendicazioni concrete come quelle di un servizio pubblico efficiente, ad esempio in periferia, perché giustamente, come diceva Cobol, non è che la bicicletta può risolvere i problemi di mobilità di questa città. E quindi, ecco, credo che questa sia un'ottima apertura per il discorso che stavamo facendo, cioè proprio l'uso politico della bicicletta. Sì, diciamo, questo esula un po' dall'idea della critical mass, che, come dicevo, è quello che potremmo noi definire sinteticamente una TAZ, cioè una occupazione temporanea di uno spazio che è appunto la strada, che è uno spazio off limit per gli esseri umani, no? È uno spazio in cui ci possono stare solo le automobili, e quindi la critical mass si occupa di dimostrare che in realtà non è così, e quindi nella sua forma di gemmona, quella di creare per una volta l'anno all'interno della città, per tre volte l'anno in una città, poi non è sempre la stessa, non è Roma, è stata anche Firenze, è stata Torino, insomma le varie città in cui le varie cimone si sono tenute, dimostrare che il traffico può essere prodotto anche dalle biciclette, che quindi si occupano lo spazio esattamente come lo potrebbero occupare le automobili. Quindi la critica a Mass non ha, come dicevo, proprio il contrario di quello che dicevi tu, cioè non ha un centro politico, quindi non è che si occupa dell'idea di viabilità. Se vuoi, l'ambizione è più larga, cioè è quella di occuparsi di un mondo migliore, cioè di un mondo in cui un mezzo tradizionale come la bicicletta può tornare ad essere al centro, se appunto però accompagnata, questo è un discorso sottointeso, questo che sto facendo adesso, se accompagnato ovviamente da strutture che sono normali in tantissime altre città e che invece a Roma in particolare e in molti altri spazi dell'Italia sono una totale anomalia, perché appunto non abbiamo metro con fermate chiuse da anni, che non servono quartieri, o autobus che smettono di fare, quartieri che non vengono serviti dai notturni, che quindi implicano necessariamente, da prima della pandemia, ovviamente, che adesso ci rientriamo tutti alle 11:30, ma insomma diciamo che implica che io non devo, se voglio uscire, necessariamente avere un mezzo privato. Questo sta un po' in tutta la, questo sta nella testa dei ciclisti, ovviamente, questa, certo, idea, più che della Ciemmona o della critical mass, che invece è, come dicevo, un'occupazione temporanea, è una dimostrazione, semplicemente una presa di parola da parte dei ciclisti rispetto a un uso alternativo della città. Bene. Io volevo chiederti un'altra cosa. Ho avuto l'impressione, partecipando insomma per la prima volta alla Ciemmona, cioè proprio di essere cambiato sotto un certo punto di vista, cioè nel senso, sono sempre stato abituato insomma a girare da solo in bicicletta per Roma, quando mi sono spostato soprattutto per lavoro, insomma per impegni personali, no? Invece il fatto di girare insieme a tante altre persone, e quindi anche proprio di potermi rilassare, semplicemente giocare, dire due stupidaggini, anche bermi una birra mentre che vado in bicicletta a farmi una passeggiata, cioè, e anche distrarmi, toccare con la ruota qualcun altro e vedere che non è successo niente, e dirsi scusa, e quello dice ma scusate che è tranquilla, cioè è una cosa fantastica, è proprio una cosa che ti mette, cioè nel senso è proprio propaganda alla gioia, non so come dire, quindi facciamone di più, bravi che l'avete fatto, bravi, grazie che mi avete invitato, dobbiamo invitare sempre più persone a partecipare, perché è proprio una cosa da paura. Quindi la domanda è, la Ciemmona ci migliora come persona? No, questo te lo dico io, sicuramente ci migliora, cioè come facciamo a farlo capire di più agli altri, perché comunque il fatto quello dell'avere paura, del sentirsi tesi, comunque è una cosa che ti scoraggia a prendere la bicicletta, invece è proprio una cultura che va, secondo me, combattuta, questa della paura da andare in giro, ci vuole intelligenza, coscienza. Cioè, la bicicletta c'ha sicuramente questo vantaggio, cioè il fatto è comunque un mezzo, diciamo, dal punto di vista delle percorrenze, soprattutto nelle città, competitivo con altri, nel senso che comunque per quelle che sono le percorrenze medie, una persona che non ha grossi problemi fisici può utilizzare tranquillamente la bicicletta, avere un mezzo proprio, raggiungere i posti molto velocemente in tutte le stagioni, in tutte le circostanze, perché insomma basta un po' di autoeducazione su questa cosa, cioè capire come vestirsi, capire quali sono gli oggetti da portarsi, e poi la esattamente quello che dici tu, cioè la bicicletta mantiene aperto, mantiene vivo quello che è un rapporto emotivo col resto dell'ambiente che attraversa, cosa che le automobili, ma anche in parte i mezzi pubblici, no, in qualche modo narcotizzano, cioè io soprattutto l'automobile ti chiude dentro il tuo abitacolo e tu sei isolato, anzi se io te la sfioro, come dici tu, ho sfiorato te, come se avessi sfiorato la tua stessa pelle, e tu ti senti in qualche modo attaccato. Per alcuni è ancora peggio, cioè peggio che gli tocchi, certo, che gli fai male, certo. Esatto. Quindi diciamo questa psicologia, diciamo da automobilista inferocito, anche se magari non esistono studi specifici su questa cosa, noi la sperimentiamo tutti i giorni, cioè nel senso vediamo la gente con la bava alla bocca che scende dalle automobili per aggredire solo perché semplicemente si è tardati a partire o si sta andando secondo loro lentamente. Allora, diciamo, evidentemente il mezzo in sé cova questo tipo di rabbie di cui fondamentalmente non abbiamo bisogno. Quello che è molto importante, cioè incrementare la cultura diciamo della socialità fondamentalmente, che la bicicletta fa, soprattutto nei momenti in cui la bicicletta non è usata, perché anche lì non ce lo dimentichiamo, la bicicletta può essere anche utilizzata, cioè non è la soluzione di tutti i mali, perché nel senso può essere utilizzata per andare a lavorare nelle fabbriche capitalistiche, i momenti di, esattamente quello, momenti di socialità, la bicicletta è un mezzo fortemente da questo punto di vista rivoluzionario, perché fa esattamente l'effetto che dici tu, cioè la riscoperta di una socialità. Il fatto stesso banalmente che quando tu incontri un ciclista che non conosci per strada ti saluti, o quando ti sorpassa al ciclista che non ti conosce ti saluta, o la grande solidarietà che ci può essere quando un ciclista si ferma perché ha bucato, passa subito dopo un ciclista e gli chiede se ha bisogno di una mano. È chiaro che lì cova una socialità, un modello sociale che poi la bicicletta in parte ha dentro, che è da questo punto di vista rivoluzionario, che è profondamente rivoluzionario, lì dove appunto la bicicletta non venga inserita all'interno di un processo produttivo che allora vanificherebbe tutto questo tipo di... Quindi la bicicletta va intesa come strumento politico? Se la domanda è questa, assolutamente sì, perché la bicicletta ha una virtuale capacità di farci socializzare e di farci restare a contatto, no? Quindi allora possiamo dire che è uno strumento politico di sinistra. è una battuta, Cobba, sì, una battuta. Sì, no, assolutamente, io direi anche addirittura rivoluzionario in questo senso. Bravo, Giorgio, guarda, ti lancio l'applauso, perché cioè, nel senso parte in maniera spontanea dalla sala l'applauso. Però nel senso era quello che volevo dire, ma l'hai detto te, quindi l'applauso era ascoltato. Continua. Sì, ripeto, non inciampando, però su questa cosa, cioè, nel senso, quando io dico uso politico è perché deve essere un uso consapevole, perché come dicevo la bicicletta può essere tranquillamente messa in produzione, può essere messa come processo di valorizzazione del capitale come qualsiasi altro mezzo. Il capitale sussume qualsiasi cosa, fagocita qualsiasi cosa, è onnivoro. Però la bicicletta ha sicuramente all'interno un germe, parliamo in maniera metafisica, che è quello che raccontavi tu, esattamente quello che raccontavi tu, che è un germe, che con l'automobile non puoi, neanche con la moto puoi sperimentare, che è un germe di socialità molto forte, che se guardata e se interpretata in maniera politica, quindi consapevole da questo punto di vista, la bicicletta può diventare uno strumento eccezionale per trasformare almeno parte delle realtà cittadine che noi oggi viviamo. Io chiudo dicendo di questa cosa, proprio perché mi è molto piaciuto quello che mi dicevi tu, anche io, ma tutti noi, ogni volta che finisce la 3 giorni di Cemona, proviamo necessariamente un senso d'angoscia molto forte, che è connaturata a questa esperienza ed è inevitabile, proprio perché vivi un momento di socializzazione e di condivisione. Lo stesso fatto che la CM non è semplicemente noi nella giornata di ieri ci saranno toccate punte di 3.000 persone che partecipavano a questa grande passeggiata, a questo grande corteo, diciamo. Sabato invece quanti eravamo su per giù? Ma guarda, le stime sono intorno alle 2.000 persone, insomma, diciamo, ieri c'è stata sicuramente affluenza. Il sabato è sempre la giornata della Cemona più partecipata, mentre quella della domenica è tutti al mare, quindi insomma fondamentalmente è quella che richiede anche un minimo di consapevolezza, un po' di più della propria forza, ma ci vengono anche i bambini, perché anche lì la strada viene occupata dalle biciclette, cioè non c'è mai nessun tipo di problema. Però nei 2 giorni sì, generalmente a Roma si consuma dentro la città, poi l'ultima giornata al mare. Quindi diciamo alla fine di questi 3 giorni si prova sempre un senso molto forte di angoscia per il ritorno alla realtà, che è quella di una città in cui ci guardiamo tutti in cagnesco, a parte in alcune eterotopie che possono essere i posti legati ai compagni che fanno cose, propongono eventi, però un'esperienza così grossa, un'esperienza così forte di contatto col territorio e contatto con le persone che hai a fianco, forse in qualche corteo di un po' di tempo fa potevi provare la cosa. Dopodiché però nei cortei c'è sempre un po' ovviamente una giusta tensione un'attitudine politica forte, certo, che viene espressa, certo, che viene espressa anche nella Ciemmona, ma nella forma di una festa. Esatto, e sì, anche sì. Qui sicuramente più socievoli, ognuno porta le proprie istanze, che però sono sempre istanze antifasciste, sono sempre istanze antisessiste, antirazziste, in un certo senso io per esempio come fucilista ci porto anche le mie istanze antispeciste, però ecco sì, rimane una grande occasione di festa nella città. Cogliamo anche l'occasione per ricordare a tutti e a tutte, insomma, che visto che quello che dicevi prima non è una cosa da poco, ossia che il capitalismo si mangia tutto, quindi pure la produzione delle bici, ci sono tante per fortuna qui a Roma ciclofficine, appunto, assolutamente dicevi, negli spazi, negli spazi bene, scusami se ti ho interrotto, ecco, ricordale tu che sicuramente sei molto più in pochi minuti, perché così poi magari andiamo avanti. A Roma sola ci sono una ventina di ciclofficine popolari, che sono dei luoghi in cui le bici vengono messe, si raccolgono bici da rimettere a posto, ognuno anche senza denaro può andare nelle ciclofficine popolari o farsi aiutare a sistemare la propria, magari dando un contributo a piacere per far andare avanti la ciclofficina, oppure farne una da zero con l'aiuto dei ciclomeccanici che sono dentro le ciclofficine. Quindi questi laboratori consentono a chiunque, danno la possibilità a chiunque di avere un mezzo proprio come la bicicletta a costo zero, che mi sembra anche questo un modello di mondo alternativo che ci vorrebbero di più, insomma. Guarda, io certifico, c'avevo la bicicletta che facevo una fatica terribile, sono andato alla ciclofficina, me l'hanno cappottata, rimessa a posto in 3-4 ore, ma hanno anche... E non abbiamo finito. No, mi avete anche insegnato sul per giù a capire come devo fare in caso di necessità, insomma, a drizzare qualcosa, dove non posso toccare anche, mi avete insegnato. Quindi da paura, ricordiamo a tutti e a tutte che ci sono anche una serie di trasmissioni che Cobol ha fatto insieme a Marco il sabato sera, sempre che sono disponibili sul sito www.ondarossa.info, sì, infatti, appunto, su tutta quanta la tematica. Ma Marco chi lo sente, ma vedi, mo si incazza Marco che ci trova. Ah, Marco gliel'abbiamo presentato noi Cobol, perché io sono andato al forte, ho assistito a questo spettacolo, dico spettacolo perché era un concerto dove lui suonava da solo il suo album con la musica 8 okay, bit, okay. E quindi visto che ci siamo ci andiamo anche a sentire questa canzone. Intanto salutiamo Cobol dalla diretta. Ti ringrazio, grazie per lo spazio dato alla bicicletta. No, veramente, grazie a te. E quindi ci andiamo a sentire una tua creazione. E dagli a forte. A presto. Ciao. Grazie ancora. Ok, non è partita, non so perché Simone non me l'ha scaricata, mo la recupero subito su quest'altra cosa. Bello tosto Cobol. Ragazzi, ogni volta che parliamo con lui, ecco, è già la seconda volta che ci parliamo in radio, è veramente così dovrebbe essere. Intendere la bicicletta, il ciclismo, l'uso del questo deve essere, a me piace questa cosa, che questa concezione, questa visione, sì mi piace assai, e soprattutto mi fa sentire anche in colpa, perché intanto io comunque sia mi piacerebbe vedere una critica al massi in periferia, questo devo dire che mi piacerebbe moltissimo, sarebbe anche molto interessante vedere la reazione stessa della periferia a una situazione del genere, sarebbe proprio divertente. Però, ci arriverà, Jack, ci sì, arriverà. Sì, ma infatti io sono fiducioso, anche perché insomma Cobol ci ha spiegato che la correlazione tra dove si fa la cemmona e la funzione della cemmona non è strettamente correlata, anzi diciamo che la cemmona è un'azione, è una manifestazione che ha un senso molto ampio, ecco, che non riguarda solo la strada che viene percorsa in sé. Vabbè, comunque sono riuscito a recuperarla grazie ai potenti mezzi della radio che certo, non ci accannano mai, mai, quindi andiamo mai a sentire Sapore di Bande Spettrali sulla pelle di Cobol Pongid. E quindi mi raccomando, andate a cercare un artista, perché raga, a me mi ha scioccato, perché veramente, cioè, se lo devi capire, te devi impegnare per capirlo, però una volta che lo capisci ti si aprono strade del quindi ci stai chiedendo del ci lupo ciclismo intergalattico mazzista, cioè roba proprio, ci stai vabbè chiedendo impegno, quindi senti spacca. Senti cioè. Radio Onda Rossa, abbiamo sentito una delle canzoni effettivamente più strane che io abbia sentito come uscita negli ultimi anni, però io ho apprezzato, tant'è che appunto ci troviamo qua un anno dopo a chiacchierare di questa roba qua. Diamo il benvenuto in studio insieme a noi a due compagni che sono venuti a sottoscrivere alla radio con il 30 per 1000. Applausoni, applausissimissimi. E ci sono venuti a pedali, ci sono venuti pedalando, cioè tu pensa, infatti, ce lo dicono loro, Gabriele e Monica. Gabriele e Monica, grazie. Benvenuto. Grazie della sottoscrizione, grazie soprattutto che vi prestate a, alla nostra pazzia, terribile, pazzia. Terribile trasmissione che effettivamente dovrebbero bandire da tutte quante le frequenze FM, esatto, in una... AM, DAB, Street, dappertutto. Cioè, esatto, dovrebbero bandire. In un sistema maturo, non per ci fortuna, sarebbe. Insomma, che c'è la radio invece che ce lo permette. Esatto. Guarda, in realtà, facciamoli parlare, però. In realtà, spieghiamo appunto che prima sono passati in radio, è stato per noi un piacere, insomma, accoglierli e anche condividere quelli che erano i temi, insomma, della giornata della trasmissione, appunto, la Critical Mass, e ne è uscito fuori, insomma, che sono andati, hanno partecipato anche loro il sabato, e insomma, diciamo che per noi è stato molto interessante capire e vedere il loro punto di vista, e allora abbiamo pensato di interagire con loro. Ciao, è bellissima sta cosa, noi ne siamo felicissimi, raccontateci quello che, insomma. Sì, allora Monica voleva subito dice io vorrei continuare un po' quello che quello che dicevamo con Cobol, quindi certo, cioè, che, dici che cosa ti ha acceso a chiacchierata che ci siamo fatte con lui? Dai. Allora, parto prima con un antefatto, perché sono una di quelle persone un po' lunghe. Allora, l'antefatto è che io e Gabriele veniamo da Bologna e siamo venuti a portare qui la nostra sottoscrizione a pedali, perché insomma a Bologna si ascolta molto volentieri Radio Onda Rossa, e quindi... siamo molto felici e grati di essere qui con voi adesso. Sono diventato rosso. No. Sono arrossito, te lo dico. E qui adesso parto in quarta su sta storia, perché uno si domanderà: ma com'è che, insomma, noi veniamo da Bologna, e Bologna è una realtà dove la Critical Mass è molto sentita, anche se non molto frequentata, ma comunque molto sentita, e dove ci sono delle ciclofficine popolari che resistono anche agli sgomberi. E la domanda, diciamo, il punto da cui volevo partire, ispirata anche dall'intervento di Cobol prima, è il punto della mobilità, no? Perché uno si potrebbe domandare: ma com'è che a Bologna avete bisogno di fare le Critical Mass, ma con tutte le ciclabili che ci sono, no? Bologna è rinomata per avere queste ciclabili. Esatto. Ecco, il punto è proprio questo. E a me personalmente, ora non so, ne parliamo magari se volete, però questo discorso della mobilità come un aspetto particolare o a parte rispetto al discorso più ampio di che cosa intendiamo per spazi urbani, non mi convince molto. Vita sociale. Certo. La questione, esatto, la questione è che gli spazi urbani sono degli spazi attraversati, attraversabili, devono restare attraversabili. Nel senso, sono proprio, siamo costretti ad attraversarli per forza di causa. Per forza, dobbiamo farlo. Dobbiamo. Traffico. Esatto, siamo il traffico. Cioè, a prescindere da bicicletta o non bicicletta, comunque ci dobbiamo camminare, l'abbiamo fatto apposta queste strade perché ci servono. E infatti è proprio questo il punto, quindi la Critical Mass è un modo in cui ci riappropriamo di uno spazio che in principio è lo spazio per attraversare la città, no? È la strada, ma tutta la città è uno spazio attraversabile, quindi penso che il discorso delle ciclabili non risponda all'esigenza di libertà di movimento, è questo che rivendichiamo, la libertà di muoverci, di attraversare la città. Anzi, a Bologna è uno degli esempi di come si può pensare la città senza mettere in discussione gli interessi, diciamo, del capitalismo, senza mettere in discussione che per muoversi bisogna consumare carburante, andare forte, cambiare la macchina, prendersi il SUV, eccetera. Perché Bologna è una di quelle città dove per costruire le ciclabili si sottrae spazio ai marciapiedi, no? Per dire, quindi praticamente si sottrae spazio a chi spazio ne ha già di meno, perché no, gli certo, è stato già sottratto. No, ma anche qua a Roma io mi rendo conto che in alcuni punti farla una ciclabile sarebbe proprio dover andare a prendere per forza spazio a qualcun altro, ossia o al marciapiede, che nel marciapiede dovrebbe essere già compreso di suo, per dire, che ne so, lo spazio per una carrozzella, cosa che a Roma insomma già è una cosa, è un miracolo se non caschi a piedi, se giri a piedi, insomma. Esatto. Quindi figurate. Guarda, io proprio inerente a questo confronto che si stava intavolando volevo chiederti una cosa che ti ho chiesto anche prima, insomma, che a me mi ha colpito e te volevo fare sta domanda prima: qual è la differenza? Tu prima mi hai detto ma io sono stato anche a Roma, girare con la bicicletta per me a Roma è stato più semplice, cioè mi sono ambientata di più, così io l'ho vista, rispetto a Bologna. ce la spieghi sta cosa? Perché come dicevi te, nel nostro immaginario Bologna è la città delle biciclette. Spiegami che è stato, perché per noi andare in bici ha visto, no, come il rischio, cioè non lo affrontava veramente il coltello in mezzo ai denti, è vista un po' così. Mi è piaciuta questa visione, me la spieghi? Cioè ce la spieghi? Ok, sì, infatti poi anche la parola rischio è una parola chiave di cui volevo parlare dopo in relazione alla sicurezza, no? Sì, la questione è questa, che io ho vissuto a Roma, anche Gabriele ha vissuto a Roma circa 5 anni e quando ho preso la bici mi sono emancipata, cioè perché la bici mi ha dato la possibilità di muovermi liberamente. Una vera quindi epifania. La questione è, ho la bici, mi prendo la strada. E questo non solo l'ultimo venerdì del mese quando facciamo la critica, me la prendo tutti i giorni, no? Okay. In una città come Bologna è un po' diverso, nel senso che è stata calata un po' dall'alto quest'idea che i ciclisti e le cicliste e le persone sui pattini, le persone a piedi e le persone che si muovono con la forza, diciamo, dei loro corpi debbano stare in uno spazio confinato. E la percezione che gli automobilisti, i motociclisti e chi si muove sulla carreggiata ha è che quello spazio che percorrono sia solo il loro. Dunque, in realtà a Roma mi è sembrato, e continua a sembrarmi quando ci torno per la Ciemona, che sulla strada, sulla carreggiata intendo, possiamo ancora negoziare quello spazio, possiamo ancora rivedere le proporzioni. A Bologna, per via di una serie di politiche tra l'altro molto nutrite e sponsorizzate dalle ultime amministrazioni, invece non c'è questo spazio di negoziazione in cui io mi fermo e mi metto a parlare con chi è davanti a me, che sia in moto, che sia in macchina, del fatto che quello spazio è di entrambi. Cioè, no, aspetta, non ho capito, tu al semaforo ti metti a parlare con gli altri di questa cosa? A voglia, sì. Mi metto a parlare. Ma infatti, ecco, e qui mi collego all'altro tema, no? Perché prima Cobol mi ha dato questa ispirazione, no? Lui diceva, in bici è bello perché possiamo anche parlare, no? Mentre pedaliamo, parliamo, notiamo delle cose. Io annuso l'aria mentre pedalo, mi piace un casino attraversare i quartieri, sentire l'aria, l'odore della frittata certe volte che mi colpisce. Sì, sì, oia, aie, oio. Noto un sacco di cose mentre pedalo che non noterei se fossi chiusa nel guscio, no, di un'automobile, molto probabilmente. Ora, questo non è crepuscolare, questo ha molto a che fare col tema della sicurezza. E per sicurezza non intendo non cadere in una buca, quello è uno degli aspetti della sicurezza quando parliamo di attraversare una città. C'è un altro tema, cioè c'è un altro aspetto che mi sembra molto più pertinente e da donna e da transfemminista lo voglio rivendicare più forte. Sì. Cioè che la sicurezza è la socialità. In una città, ah, certo, dove la socialità viene confinata, viene anche vietata, come si fa a Bologna, perché puoi attraversare certe piazze a Bologna soltanto se vai a consumare e non se ti ci vuoi fermare a fare due chiacchiere con i tuoi amici. Io mi sento molto meno sicura. Inquietante, veramente inquietante. Dunque mi sento più al sicuro se sono in bici, se c'è altra gente in bici, perché in bici notiamo tutti e tutte più cose, siamo tutti e tutte più presenti. E quindi l'essere un po', il nostro essere un po' giungla, come dire, no, per definizione, la rende un po' una particolarità, cioè esatto, quell'elemento di non impostazione comunque ti rende comunque libero. È bella sta cosa. Infatti la giungla si ripia gli spazi, appena può si ripia gli spazi. Sì, infatti. Io una cosa che quello che dicevi, che diceva Monica, sulla negoziazione quando ti trovi braccio a braccio. Io durante la Ciemona con la mia bandierina virata, sempre perché era la prima, quindi per dire, già adesso so che l'anno prossimo forse è meglio che non la metto la bandiera virata, perché effettivamente posso dar fastidio a destra e a sinistra. Era prevedibile, però la mia voglia, il mio evidentemente concentrismo, esatto, cose che sventolano in gruppo, sì, esatto, non è poi proprio la bandiera virata, ce l'ho tatuata la bandiera virata, quindi basta, sei un esibizionista, basta. Okay. Me l'hanno anche regalata la bandiera, quindi non potevo non metterla. Bene. Comunque, la cosa bella delle persone che stavano lì insieme a me, che si sono tagliate, è che io correvo appresso ai motorini che provavano a tagliare il corteo con la bicicletta, li fermavo, io cominciavo a girare intorno tipo squadra, bellissima, nel senso che pure, cattivo ragazzo, sì, proprio, c'ho proprio voglia di però non ci avevo mai pensato invece a provare a fare la semaforo, perché io invece al semaforo, come mi ha insegnato Gobble, se posso passo pure se gli altri stanno fermi. Ah bravo, sì sì certo, interessante. No, non lo so, cioè nel senso no, soprattutto agli incroci io te consiglierei. No certo, ma sto attento però pure lì comunque c'è anche semplicemente il semaforo, è studiato non tenendo conto di noi. Ok, esatto. Cioè nel senso se passo io col semaforo rosso è un conto, se passa uno scooter è un altro. Ma infatti, esatto, ma infatti questa cosa mi ha fatto pensare. Sì, vorrei dire una cosa. Vai, vai. È anche proprio un mezzo la bicicletta, che è diverso assolutamente tra macchine e motorini, perché è, diciamo, coscienzioso, è leggero, non ha quell'impatto che hanno i motorini o le macchine che possono magari intruppare contro qualcosa e fare veramente un botto serio. Esatto. La bicicletta è agile, presente a sé perché è esposta proprio all'ambiente, non è appunto richiuso da un casco o da un abitacolo. Quindi è lì e sa come reagire nel momento, per questo si può magari permettere di passare, non so, un rosso, perché vede l'intemporale che si può passare, ma non lo fa perché è un irresponsabile, un pazzo, perché vuole fare chissà che cosa, il numero. No, esatto. Quindi ecco, la bicicletta rispetto alla macchina, che poi appunto ha un privilegio che è motivato e ingiustificato, perché si pensano le strade in funzione della percorrenza delle auto e tutto quanto, appunto, se le biciclette devono stare su una ciclabile che è disegnata su una striscia sul marciapiede, allora capisci che è un privilegio, è la bicicletta, sì, cioè la bicicletta deve subire insieme a quel pedone. Io mi piace dire che è come se costruissero queste cose per fare sì che la bicicletta diventa un'automobile sul marciapiede. Sì, esatto, esatto. Poi lasciare bravissimo, bravo, in piena bravissimo, libertà, sì. Hai visto, ci mettono pure i parcheggi a spina di pesce. Ma per un paio di monopattini, esatto. Fantastici. Infatti questa cosa, quello che diceva prima Coblo, mi ha fatto pensare, sarebbe figo che in ogni quartiere si organizzasse una carovana, ogni ora passa la carovana in bici sotto casa, e se vuoi uscire con la bicicletta ti aggreghi. Famo gli autobus a pedali. Esatto, allora, esatto. La critica, famo gli autobus a pedali. No, cioè la critical mass quotidiana, ma a ogni ora. Cioè, come gli autobus, ogni mezz'ora, per dire, se tu sai che ogni mezz'ora passa una carovana con 20-30 biciclette, tu ti senti più sicuro di uscire in bici. E magari organizzi pure la tua giornata in base agli orari che c'hai, per dire, ogni mezz'ora, ogni ora sarebbe figo. Passare, però, cioè, nel senso, sì, però hanno fatto pure i concerti a pedale. Ci hanno fatto anche però, bravo, infatti, dopo ci sentiamo un pezzo di c'è una domanda che io volevo fare, una domanda che volevo fare a Coblo, che mi sono scordato. Ieri ascoltavo un'altra radio, purtroppo io ascolto anche altre radio oltre Onda Rossa, mi dispiace. E per questo Giacomazzo verrà mutato. Esatto. No, dai, cattivo. No, ascoltavo che appunto nelle nazioni dove il regolamento della strada obbliga i ciclisti ad indossare degli strumenti di, come il casco, le ginocchiere di protezione, insomma, questo ha fatto calare drasticamente l'utilizzo della bicicletta. In maniera drammatica, cioè a zone dove praticamente una volta, in alcune zone della Norvegia ad esempio, è stato inserito l'obbligo, e lì la bicicletta è di uso comune, è stata distrutta questa cosa. Quella è una strategia atta proprio a fartela passare male, cioè ti devono caricare, responsabilizzare, come se tu dovessi renderti visibile, sicuro, attento, quando invece appunto le macchine hanno il permesso di fare quel cazzo che gli pare. Scusate, no, ma infatti ragionavo prima sul fatto di Bologna e la diversità, sul fatto che ad esempio a Roma magari ti puoi trovare meglio l'utilità, il fatto che la bicicletta innanzitutto sia fortemente antieconomica e fortemente contro gli interessi capitalistici, perché come dicevamo prima la bicicletta intanto non ha bisogno di carburante, quindi non acquisti auto e di conseguenza sei un problema per il mercato. Esatto, e poi generalmente la puoi rimettere a posto da un'altra che sta sgangherata. Esatto, e generalmente chi fa un utilizzo diciamo importante della bicicletta, generalmente più sano anche a livello di salute, quindi è un problema in meno per le case farmaceutiche. Di conseguenza ecco qui che la bicicletta diventa un problema. Ma in un nord industrializzato come quello nostro, no, italiano, dove Bologna è il fulcro, diciamo, uno dei fulcri del nord industriale, come possiamo noi pensare che la mobilità, una politica della mobilità, privilegi l'utilizzo della bicicletta piuttosto che quello delle auto o dei camion? Cioè non toglieranno mai strada al camion del Papi che deve andare a scaricare nella fabbrichetta lì piuttosto che la bici, cioè, voglio dire, esatto, qua bisogna produrre, cazzo, non possiamo. Io la butto lì a questo punto. Siccome si parla tanto anche di zona 30, che adesso cioè è il limite di velocità per le zone centrali, cioè si chiude non tanto ZTL, però magari sì. Il fatto è che in centro dovrebbero girare soltanto mezzi che o vanno a quella velocità, magari ora vorrei dirla tipo elettrici che si muovono soltanto lì in quel modo. Il fatto che sono silenziosi, pure troppo silenziosi certe volte, questo è un problema. È un problema? A voi, assolutamente. O mettono la musica a palla oppure si fanno sentire in un altro modo, però almeno non inquinano e va bene così. Che però vanno a una velocità. Non inquinano mentre che camminano. Ah, no, certo, esatto, perché tornando perché come dicevamo prima, insomma. Le devi attaccare da qualche parte che invece. No, no, ma poi ribadisco che cioè, la batteria è un bene che si, no, che si consuma. A un certo punto va cambiata e va smaltita. Ok, e non si sa come in realtà, bene, non si sa bene come si smaltiscono. L'automobilista la prende un'altra, è convinto di fare la cosa giusta, e allora si sente tranquillo. No, esatto. Ma questo è il grande dilemma che sta dietro anche le energie rinnovabili. Ma cioè, voi. Sì, bellissimo, sarebbe fantastico se potessimo campare di. La terza o la quarta rivoluzione green che si parla? Perché dagli anni 70 sentivo che sì, esatto. Ma infatti oggi non si parla più semplicemente di green economy, ma si parla di capitalismo verde, perché poi tutto viene declinato. Nella, esatto, nell'accezione economica, nella deriva che ormai ha preso purtroppo il mondo in cui siamo costretti a vivere e che combattiamo tutti i giorni. Assolutamente. E infatti, tra le altre cose, tutta quanta la Cemona, anche la grafica della Cemona, può ricondurre un pochino alla carovana, tant'è che la giornata di ieri era anche incentrata un pochino intorno a questo discorso e insomma anche oggi si andava giù al bilancione e si provava a fare qualcosa in merito appunto all'accoglienza della carovana zapatista che è partita, che a settembre arriverà anche a Roma e... però insomma nel senso sì, è un discorso proprio molto più ampio quello che si fa, viaggia su temi che purtroppo chi di dovere proprio non può proprio per costituzione comprendere, non so come dire, parlare con questi di certe cose certe volte risulta quasi diventa complesso, sì, no, è come un muro. Proprio come un muro, lo so infatti è ampio il problema. Prego. Ma certo. Ah sì, no, ma infatti volevo comunque aggiungere una cosa, che capita spesso sia le critiche che le cemone che vengono lasciati dei, diciamo, volantini autoprodotti da, diciamo, dalla cemone, no? Da questo blob meraviglioso, che in certi casi magari se c'è un testo troppo peso, allora dietro dall'altra parte c'è l'immagine che un po' rappresenta tutto il senso o di quella particolare edizione o in generale della cemone. Poi ci stanno comunque dei simboli che spingono sempre. Perché? Scusa, ma dietro c'è comunque tutta un po' la spiegazione di com'è, come nasce, come si sviluppa, del motivo per cui tu stai lì a leggere, fermo in macchina, magari con il motore spento, che anche una di quelle bellissime proposte vengono fatte. Che poi la cosa geniale è che magari tu attacchi, diciamo, non la pipa, ma comunque un discorso con una persona che intanto c'ha veramente la bava alla bocca, tu gli dici, vabbè, guarda, questo e quest'altro, ma intanto spegni il motore che ci guadagni tu, certo. Ci guadagniamo in aria buona a respirare, e intanto comunque dietro via e passa. Cioè funziona così, quindi lasciare anche poi un volantino, questo poi magari se lo porta a casa. Assolutamente. E invece infatti, di mangiarselo. Bravissimo. È proprio una delle cose che gli dicevo a quelli lì fermi che li bloccavamo, che si incazzavano. Dicevo, vabbè, l'anno prossimo invece del volantino ti appiccichiamo l'adesivo sul cruscotto. Perché l'adesivo di quest'anno, come dicevi tu, infatti, e si riconduce a quello che dicevo io, invece di parlare alle istituzioni, parla direttamente alle persone. Sì. L'adesivo ci sta scritto sopra: "World don't need your car". Cioè il mondo non ha bisogno della tua vettura. È un concetto basilare, veramente disegnato in maniera talmente quasi diretto, cioè, semplice. Esatto, cioè, più facile di così, se lo vuoi capire lo capisci, altrimenti. Ma guarda, no. Tanti ce ne stanno anche uno bellissimo che mi ricordo sempre, è "Vogliamo spazi non piste", che ritorna poi alle ciclabili, perché mi pare ciclabile per ghettizzarmi lì e farmi magari baccagliare con i pedoni, no. E poi ci stanno le macchine che fanno, dicono, cioè no, veramente. Va bene, e volete aggiungere qualche altra cosa? O ci andiamo a sentire una canzona? Ah no, io, va bene, no, semmai dopo. Okay. Volevo parlare della mia esperienza, no, del mio impatto. Cioè io ho ripiato la bicicletta a Roma, poi siamo venuti a Bologna. Va bene, nel senso, abbiamo anche un compagno che sta tornando da Fiumicino, magari lo sentiamo, se vi va di rimanere, state qua insieme a noi, lo sentiamo e poi continuiamo a farci due chiacchiere. Vediamo chi era.

87.9 sempre Radio Onda Rossa e torniamo in diretta. Ricordiamo a tutti e a tutte allo 06 49 17 50. Vai Giacomo, fammi la voce 8. Vai, vai. 06 491 750. Il numero rosso di Radio Onda Rossa. Naturalmente, se voi ci fate il 30 per 1000, Giacomo Mazzo viene a casa vostra e fa tutto quanto quello che volete. Lava, stira, begonfiero, da bicicletta, fa tutto quanto quello che volete. Mi sembra un po' basta eccessivo. Che sottoscrivete alla radio, perché andiamo avanti. Prende con Risciò. Facciamo tutto. Io mi dissocio. Per spronare tutti e tutte a continuare a sottoscrivere, andiamo a sentire un'altra pubblicità della settimana scorsa, che però presto inseriremo anche all'interno dei anche perché pare che i contributi siano arrivati, sembrerebbe, da voci terze. Giacomo, non anticipare nulla, la tensione per i nostri ospiti deve essere sempre. Ah, ok. Vado col contributo. Fate finta di buongiorno, prego. Si accomodi. Guardi, abbiamo fatto tutti i test e purtroppo lei soffre di appiattimento culturale, di vuoto cosmico. Ma come? Io leggo tanto, guardo film, mi informo. Lo so, ma guardi, purtroppo oggi con i social prima o poi ci ammaliamo tutti quanti. Ma non si preoccupi, è grave, lei è fortunello. C'è una cura, anche se loro non ce lo dicono. Davvero? E che devo fare? È semplice, deve ascoltare tutti i giorni Radio Onda Rossa su 87.9 FM oppure in streaming sul sito, più volte al giorno. Radio Onda Rossa è da sempre una radio libera e senza padroni. E come fa una radio a essere senza padroni? Guardi, nell'unico modo possibile, col sostegno di chi se la sente. Radio Onda Rossa è una terapia senza controindicazioni. Vai sul sito radioondarossa.info, clicca sul banner dedicato alla campagna, sostieni la radio libera e indipendente. Applausoni per scroscio di applausi le nostre fantastiche pubblicità. E andiamo a chiamare un compagno che sta forse ancora al bilancione, vediamo che risponde. Come risponde? Lotto, ci sei? Pronto? Oh, eccoci. Applausoni di nuovo, applausoni. Applausoni al bilancione, sì, siamo arrivati qui con la CM Mona e devo dire che è stato un percorso abbastanza lungo e tortuoso. immaginiamo. E niente, siamo arrivati qua, la situazione è bella, c'è la cumbia, c'è la lotta, c'è la carovana zapatista. Vedi? E tutto fa quadro. Lo stavamo dicendo, infatti, che appunto la gemola di quest'anno avrebbe toccato anche questa cosa della carovana, quindi ci fa piacere che siamo riusciti insomma a sentirci dall'altro bilancione, che ricordiamo insomma è un bilancione occupato che porta avanti da un sacco di anni la lotta contro il porto, il no porto. Sì, più che il no porto e basta, il no porto perché vogliono fare la crocerizzazione del porto, cioè vogliono portare le grandi navi, le navi da crociera nel porto di Fiumicino, che in realtà dovrebbe essere un posto dove tu puoi venire e stare in spiaggia, che stranamente è ricomparsa la spiaggia sotto i bilancioni. Questa è una cosa che secondo me andrebbe investigata, sicuramente non sono io adesso quello che può ragionarci, però il fatto durante l'ultimo anno? Spiaggia, sì, durante l'ultimo anno sotto la spiaggia dei bilancioni, io in questo momento sto guardando dei bilancioni che hanno la spiaggia sotto e ci ricordiamo che in realtà la gente si faceva i tuffi dal bilancione, no? Sì, e quindi certo. C'è qualcosa che non quadra, stanno facendo qualcosa che non è proprio secondo me in linea con quello che è il litorale, che non sarebbe una cosa strana comunque, che durante i momenti di diciamo di concentrazione, sì, quando nessuno guarda, esatto, gli altri fanno come sta succedendo anche alla SNIA, non sarebbe una cosa strana, quindi mi sembra un'ottima osservazione questa lì. Ribadisco, sì. Io non ne so niente, non lo so come è successo, però appunto il fatto di vedere dei bilancioni con sotto la spiaggia è abbastanza allarmante. No, assolutamente, va assolutamente buttato un occhio oltre il recinto a sto punto. Sì. Dovremmo controllare un pochettino che sta succedendo. Per il resto qui. Ok. Sì. Dimmi. No, volevo aggiungere che insomma le professionalità e le competenze all'interno del movimento, insomma, si attivino da questo punto di vista. Ma di solito ci si va dall'altra parte a dare un'occhiata, anche in maniera simbolica, chissà, magari quest'anno. Però ci vuole un occhio attento, guarda, non dico che nessuno ci stia mettendo un occhio, perché probabilmente i compagni del bilancione avranno ben chiara la situazione, non sono io che magari posso avere il quadro preciso di quello che sta, certo, succedendo. Loro probabilmente ne avranno molte di più di informazioni, però ecco, così è stata la mia sensazione arrivando con la CMON, a trovare la spiaggia sotto il bilancione è stato un po' strano, ecco, impatto, mettiamola impatto. Così infatti io, guarda, da abruzzese penso un po' ai trabocchi che potrebbero essere, insomma, la trasposizione adriatica del bilancione, insomma, e immaginare un trabocco con la spiaggia sotto mi fa un po', sinceramente, si fa un po' strano, sì. Parecchio, sì parecchio. Quindi, insomma, vabbè, comunque, quando siete arrivati? Ma siamo arrivati intorno alle 4:30-5, anche perché abbiamo avuto questo fantastico appoggio delle forze dell'ordine, dei vigili urbani, che poi si dovevano dare cambio da comune a comune. Fantastico. Non richiesto. Ci ascoltati, quindi. nessuno gli aveva chiesto, però loro volevano fare la cerimonia con la macchina davanti. Sì, noi l'abbiamo fatta dietro. In realtà ci hanno rallentato, perché in realtà, a essere onesti, ci hanno rallentato. Sì, sì. E quindi siamo arrivati un po' tardino, pensavamo di arrivare per pranzo, anche l'incertezza del clima, perché ci dicevano che in teoria doveva piovere, invece c'è un sole bellissimo. E niente, cioè siamo arrivati un po' tardi, però diciamo l'accoglienza è stata fantastica. In questo momento c'è stato un bello spettacolo di giocoleria appena siamo arrivati, i clown che ci hanno raccontato una storia sulla carovana zapatista e sulla nave che è partita, che ci verrà a trovare, che è salpata e che ci verrà a trovare in Italia, non mi ricordo in questo momento quando, a settembre, però ancora non abbiamo una data, ancora sì. Sono in navigazione, ancora non sappiamo quando arrivano in Spagna, figurate se sappiamo quando arrivano, cioè Spagna forse arriveranno, esatto, arriveranno. I zapatisti stanno arrivando, che arriveranno, esatto, cioè, quindi, ma fa parte, fa parte proprio dell'entrata nel mood non sapere quando arrivano, perché no ragazzi, cioè, è proprio così, cioè, nel senso, sono zapatisti, è un po' come la CMON, noi siamo partiti, esatto, stamattina, non bravissimo, bravo, applauso per Nino. Ecco, esatto, parte l'applauso. Applauso. Voglio l'applausone. Sì, l'applausone, vai, smarmella tutto. Perché è così? Perché è così? Gli zapatisti, la CMON è zapatista. È uno dei tanti semi, è uno dei tanti semini di auto-organizzazione sul territorio che abbiamo piantato. Sì. Vai, scusa, mi sono esaltato, vai. No, noi saltiamoci, è il momento, direi. Esatto. Ma sì, no. Una volta ogni 20 anni ci tocca farlo. Non si potremmo saltare. Come dicevano i Folcabestia, non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice. Cioè, voglio dire, quindi insomma. Bella storia. Siamo arrivati alla filosofia, vedo, eh. Sì, figurati. Perché io sono andato avanti, ma voi mi sa che mi avete seguito abbastanza bene. Io sono io sarò alla 60ª Peroni, non so voi, quindi mi voglio scusare con tutti quelli e quelle che ci ascoltano e quello che ci ascolta. Sì, ma tanto alla 40. Lo facciamo alla fine noi, non ti preoccupare, lo facciamo ogni domenica alla fine. Insultatemi dopo che avete staccato, che va bene tutto. No, ma vai tranquillo, Nino, che tanto a ogni fine puntata lo facciamo noi, chiediamo scusa per aver rubato 2 ore della vita di qualcun altro. Effettivamente gli stiamo rubando. Sì, esattamente, come al solito, però insomma, quindi ci piace mi sembra giusto, però non è che se lo possono tenere tutto per loro. Assolutamente, esatto. Neanche noi ci possiamo tenere tutto quanta sta roba per noi, è giusto condividerla, fa parte del nostro spirito. Cioè, questa trasmissione ha una funzione terapeutica per noi, cioè noi abbiamo bisogno di questa trasmissione. Ma per voi tre, giustamente. Sì, certo, noi sì. Ve l'hanno data come terapia. Esattamente, noi paghiamo per stare qua. Fantastico. Lo capisco. Come terapia, esattamente. La radio è un servizio. Certo. Ricordiamo che la radio è un servizio, serve per tenere questi tre impegnati. Allora Nino, siamo già al terzo quarto applauso, quindi io direi che, visto che tu stai anche qua a 3-4 muri di distanza, qua a Roma, passa domani in assemblea, che devi passare assolutamente mi state incastrando così, no, esattamente, ho da fare, mi ha chiamato l'idraulico, devo fare una cosa. Va bene. A proposito di idraulico, comunque il 12 di giugno scattano i 10 anni del referendum dell'acqua, ci sarà una manifestazione nazionale. Ora io non lo so se per caso qualcuno l'ha detto, però sì, ricordatevelo, segnatevelo. Guarda, c'hai veramente ragione, infatti mo segna, signora, se lo segni, signora. Noi segniamo qui sicuramente sulla bacheca vicino al numero di telefono, così bravo, tutti bravo, segna, così mi richiami il 12 giugno, sì, e sarà sempre bello. No, è certo, assolutamente, ma già abbiamo fatto anche qualche domenica fa, insomma, abbiamo fatto tutto quanto lo streaming di un convegno appunto che parlava di questa roba qui, e sicuramente lo seguiremo, quindi se tu ci vuoi venire a dare una mano a seguire questa cosa, ancora meglio, Nino, ci sentiamo. Ah, quindi proprio è stata una storia d'amore che dura, quindi non è finita. Sì, sì, sì, sì, esatto, ormai è... Quindi vieni domani e t'accolli questa cosa. Applausi. Vabbè. Eccolo là. Grazie. Eccolo grazie. Là. Applausone. Io vi ringrazio, siete veramente degli amici, a questo punto... No, a parte gli scherzi, a parte gli scherzi. No, ma noi diamo fondo all'accezione del termine compagni, capito? Compagni. Certo, no, certo, è giusto. Noi è giusto. Oh, condividiamo tutto. Bravo, esatto. Però al momento in cui poi non ti rispondo, sai. Ma vabbè, condividiamo tutto. Ma vale la stessa cosa pure per noi, nel senso, se qualche volta ci scappa qualcosa, ecco, non è colpa nostra, raga. Ricordiamo a tutti e a tutte che qua nessuno si piega una lira dal 44, tutti quanti. Sì, no, 77 da 44 anni, scusate. Quindi è radio attimo, della resistenza romana. Scusate per l'apsus. tutti e tutte, insomma, dedicano il massimo che possono a sta storia, noi compresi. Ma quindi certo. Assolutamente. Ci proviamo. Ci proveremo a starci pure questa cosa qua. Grazie ancora, Nino. Sei ciao, un abbraccio. Ti devo una Peroni, quindi becchiamoci presto. Esatto, grazie. Ricordatelo, conservala. Ci mancherebbe. Dai. Ciao, grazie ancora. Fantastico. Le puntate con queste chiamate a me mi piacciono assai. Grande, cioè, grande. Proprio tantissimo. Grande. Sono molto contento. Fantissimo. Nino, ti ricordi che stanno. Vabbè, bellissimo. Comunque, speriamo che ci possa trovare a Dubston. Ah, ecco, mi sembrava una voce conosciuta. Infatti, mannaggia la miseria. Bene, grande. Quindi andiamo un pochino avanti. E quindi bicicletta ci si va anche al mare. Guarda, che bravo. Simone intanto fa le sue vignette. Ci si va anche al mare. Io vorrei fare una parentesi sulla vignetta. Scusate, la pubblichiamo dopo su. No, noi dobbiamo fare. Dobbiamo fare una parentesi sulle vignette, nel senso che Simone dovrebbe iniziare a fare la vignetta. Ora lanciamo questa idea al nostro pubblico. Simone fa la vignetta qualche giorno prima della puntata. Fa la vignetta sul tema della puntata, ok? Poi noi quella vignetta la pubblichiamo, la facciamo diventare virale. E noi dobbiamo e dovete indovinare l'argomento della puntata, eh? Come lo vedete? È un bel gioco, possiamo lanciarlo dalla settimana prossima. Ve la accollate voi due, come Nino si accollerà il referendum, la manifestazione del referendum. Va accollate e spingete questa cosa. Bravo. Se voi volete partecipare a questa ultima mezz'oretta che ci facciamo qua in diretta, 06 49 17 50, andiamo avanti. Giochi con la bicicletta si fanno anche dei giochi. Io infatti la settimana scorsa ho parlato con una ragazza al Forte mentre che mettevo a puntino la mia bicicletta alla ciclofficina, che mi parlava appunto, lei mi era ex campionessa oppure comunque partecipante della squadra di bike polo italiana. Una figata, ragazzi, nel senso, a parte che io già non sapevo minimamente che ci fosse uno sport del genere. Sono rimasto scioccato a sapere inizialmente che c'era qualcuno talmente pazzo di salire su delle biciclette e spingersi a spallate con le mazze, con una pallina affastata, perché la vedevo pericolosissima. Infatti lei mi diceva: guarda, mi ho fatta male qua un pochino perché l'altro giorno giocando, e quindi ho scioccato. C'è il bike polo. Bike polo. Poi invece andando alla Cemona e quindi addobbandomi un po' di qua addosso alla gente, la gente addobbandosi addosso a me, chiacchierando, bevendo anche la mia birretta, e mi sono reso conto invece che è tranquilla, che se può fare, cioè ci proverò. Come un altro gioco altamente secondo me interessante, che è quello, adesso non ricordo il nome, ma consiste nel dividersi in squadre. Ogni squadra ha la sua serie di indirizzi da raggiungere il più velocemente possibile, non rispettando tutte quante le varie regole della strada. Ok. No? E a ogni punto che arrivi, magari vi sta qualcuno che ti dà, non so, una gelatina al whisky, non so. E chi arriva primo vince, e poi Maxi Festoni. Dovremmo ricominciare a farlo, secondo me, perché io voglio qua. Se, secondo venire me, alla, in quel caso vereste Giacomo, no, perché praticamente manco la gelatina ti vorrebbe mangiare. No, ciclo whisky si chiama. Ciclo whisky. Bello questo, è una figata. Comunque, vabbè, bello, a parte questi giochi e queste cose qua, possiamo andare un pochino avanti. Ci tenevo a dire sta cosa perché, insomma, il gioco con la bici mi piace. Non è solo cosa, la scaranata in discesa dalla collina, non è solo un mezzo di trasporto, è anche una cosa che te la fa prendere bene, capito? C'è Gabriele che vorrebbe dirci qualcosa. Esatto, scusate l'intromissione, però i meglio cimonicu possono ricordare che esiste la bici fionda. Cioè? Che è, infatti? No, bravo, la bici, bravo, fionda. Questa mi piace, mi piace sicuro, è violenta la cosa. Esatto, bici bimbo. Cioè, sarebbe... Al massimo, tutto al più, sono ammesse le grazielle, praticamente... Rosa. Una composizione di camere d'aria. Ah sì, rosa ruggine. Però, esatto, arrugginite. Una composizione di tipo, i camere d'aria tutte affettucciate tra loro, che sono vincolate a un ciclista su questa biciclettina che si lancia in direzione di una birra. Quindi deve praticamente farsi un tratto di strada, cioè di strada, insomma, di... In discesa? No, in piano. Okay. Esatto, prende un minimo di rincorsa, però una certa subito viene tirato da queste camere d'aria che... Perché ok, le camere d'aria sono legate a qualcosa, esatto, tipo elastico. Bravissimo. A elastico, giustamente. Deve contrastare tipo la trattenuta delle camere d'aria. Aspettavo. E tu devi vedere, cioè dovete vedere, immaginare gli ultimi metri fatti tenendo una mano su un manubrio che praticamente è una bicicletta. Ma con la bici, cioè, no, forse me l'ho messo espresso. No, so io che comunque. No, l'hai detta bene. È domenica sera anche per me, comunque. Esatto. Sto un po'. Infatti la dedica anche per chi è venuto nel Cremona da anni. Che è una roba che deve essere, cioè, greve, devi proprio sentirti da rifare, devi essere tutto fracico. E comunque è bellissimo vedere come, perché non tutti riescono, ovviamente. Certo. Cioè, la cosa più, diciamo, tranquilla è che rovini trascinato indietro da questa camera d'aria senza manco la birra in mano. No. Quindi sì, esatto, però cioè, tutta presa bene, cioè. Poi te la bevi lo stesso, immagino. Sì, no, ma l'hai bevuta prima, l'hai bevuta, certo, dopo. Esatto. Cioè, devi averne bevuta molto prima per partecipare a quel punto. Esatto, vi serve la scusa. Un'altra cosa molto figa che si faceva qui a Roma, che speriamo che presto si rifarà, insomma, è il freak cross, una cosa del genere, quello che facevano al forte sotto i tunnel con le biciclette. Ah, quello era. è fichissimo. Ma si chiamava freak cross, non lo so, però fecero una roba un anno con insomma uno dei partecipanti collegò una videocamera alla bici, praticamente fece tutto il percorso, poi montò sto video. Free cross al forte, esatto. lo rifaremo pazzesco, presto, insomma, pazzesco, bellissimo, tanto figo, tanto magari figo. In un modo diverso, perché sì, partiva, faceva tutti quanti i giri dei tunnel, poi risaliva fuori, il giro intorno, sopra, esatto, boschetti, esatto, e tutte quante cose, riscendeva, era una cosa molto molto figa, molto bella, molto bella. Quindi sì, con la bici insomma ci si pure diverte. E andiamo un po' avanti a chiacchierare con gli ospiti, con Gabriele e con Monica. Visto che siete qua, vi sfruttiamo e raccontateci un po', insomma, quello che vi pare sull'argomento. Ah, sì. A ruote, a rotelle. No, infatti un argomento che mi a parte quello che vi pare, giustamente, certo, però dico un argomento che mi piaceva analizzare un po' è lo scontro che si crea, proprio il contrasto tra ciclisti e automobilisti. Cioè, come si concretizza poi realisticamente? Perché questa è come dire, è una cosa da sempre, il ciclista e l'automobilista sono categorie avverse. Certo, poi certo. A Bologna che succede in questo? Beh, se per scontro intendi il botto, quello si regola come tutti quanti gli altri, okay, vabbè, certo, il mondo. Certo. No, l'incontro, diciamo, il rapporto che ci può stare. Allora, a me capita spesso che quando io sto su una strada, ovviamente, e accanto a una ciclabile mi si accostano, rallentano, creano del traffico dietro semplicemente per dirmi ciclab. Allora io mi prendo anche con le due battute per fargli capire che la ciclabile non è un posto sicuro, ma che comunque lui si deve preoccupare intanto di non starmi troppo addosso, che già al momento sta creando del traffico, quindi certo, sta solo perdendo tempo. Ora questo io ci ho messo quanto? 10 secondi. Riuscire a farlo per strada con una è macchina complicato, accanto che ti suona, che già in testa c'ha solo quello che vuole dirti e non ti sta ascoltando, e allora sì, è complicato. Però l'importante è stare lì, diciamo, responsabile, farsi vedere, cioè, come dire, manifestare quotidianamente che lo spazio mio deve essere sulla strada, non deve essere sulla ciclabile. E poi i ciclabili ci possono stare per chi se la sente di andarci, cioè, io ho visto carovanine carine di famigliole in ciclabile, ci stanno tutti i caschetti, va bene, per iniziare sì, è qualcosa che va, cioè, ci può stare. Però poi se poi ti prendi gli spazi che sono doverosi, che come dico sempre, sono sempre state prime le biciclette, poi sono arrivate dopo, che so, i calessi, le carrozzine, certo, e certo, poi dopo, ancora più dopo, motorini e macchine, che è una tragedia, che si sono presi poi spazi appunto immotivati e ingiustificati. Sì, tornando alla mia esperienza personale, io la mia epifania è stata qui a Roma, perché ho deciso di ripiare la bicicletta perché vedevo questa meravigliosa eleganza di tutti questi ciclisti che si muovevano, si svincolavano con appunto la responsabilità e la, diciamo, la percezione dell'ambiente che è utile a un ciclista per muoversi in una città caotica, trafficata e magari avvelenata, ma dal traffico, che è come Roma. Invece a Bologna la cosa strana è che io mi sono trovato a disagio, perché intanto c'erano pochissime ciclofficine popolari, io la mia l'ho fatta alla Don Quixote, quindi poi un paio d'anni dopo siamo venuti a Bologna e non trovo ciclofficine popolari dove poterlo mettere a posto io stesso, perché poi ho imparato a montarla, a fare manutenzione, che poi è la cosa fondamentale e principale, perché così conosci il tuo mezzo, lo sai ad operare, riconosci anche i problemi che ci sono, riesci anche a prevenire. E quindi non vai neanche a spendere soldi, cioè esci, ti, appunto, ti, come diceva prima Matteo Giacomazzo, si stava ti svincola tutto questo sistema perverso di capitalismo, certo, e acquisti, per non parlare poi di catene che non voglio neanche nominare, lasciamo perdere. E io a Bologna notavo questo, che anche le biciclette vengono prese come un mezzo che c'hai da sempre, c'ha la nonna, c'è la zia, te la trovi in cantina, la porti dal negoziante, te la metti a posto, poi se si rompe la porti di nuovo sempre al negoziante, cioè è un circolo che si autoalimenta, poi magari ti fa la bici nuova, spendi un pacco di soldi per una bici che poi devi sempre portare dal meccanico e non conoscerai mai, è praticamente come se fosse una macchina a due ruote, che però magari ti consola dicendo vabbè ma io ci sto mettendo tipo la forza, certo, quanta mia. È una macchina, ma non basta, a due ruote che non si rompe, cioè che se si rompe insomma si raggiusta con un pochissimo, che ti fa bene. No, ma infatti esatto. la cosa che mi veniva da dire è dipende dalla concezione che c'è a monte, perché ad esempio l'utilizzo della bicicletta, la Cina è il paese del mondo dove si va di più in bicicletta in assoluto, dove ci sono più ciclisti, dove si percorrono le distanze, però la Cina è il paese che inquina di più al mondo, cioè voglio dire, non è che l'utilizzo della bicicletta corrisponde appunto come diceva Cobol prima. Beh, già, se tu ti ricordi bene, però noi abbiamo fatto questa gaffa enorme, stavo a pensare proprio a questa cosa e stavo a pensare a come affrontarla, quindi lo diciamo, noi abbiamo fatto questa gaffa enorme, no? Perché abbiamo sentito Cobol noi la prima volta l'anno scorso? Pensavamo che le piste ciclabili fossero. No, perché era la domenica ecologica e quindi Roma si bloccava, domenica ecologica, quindi non si poteva circolare con le macchine, quindi noi abbiamo detto che facciamo? Sentiamo i ciclisti più estremi che conosciamo. Ok, e lì cioè, noi ci ha fatto a pezzi in diretta, cioè, esatto. No, a pezzi però non nel senso sì, negativo, nel senso noi ci siamo fomentati, ogni cosa che ci diceva proprio noi dico sì, dai, dava paura, è stata una cosa bellissima, quindi vedi, serve a questo parla bene delle cose in maniera esatto, sciocca, cioè, volte, esatto, no? Cioè in Cina la bicicletta è stata spinta, costruita come lo strumento di emancipazione delle masse. Ed è così, di fatto. E questo ci sta, infatti. Esattamente. Cioè, ora, se a monte, anche se a monte c'è un principio sano, l'utilizzo non coerente e non cosciente di un mezzo che può significare emancipazione delle masse diventa comunque lo strumento di persecuzione degli interessi del capitale. Mo, che la Cina è uno stato sommariamente comunista, possiamo pure affermarlo e parlarne per anni, ma senza dubbio l'utilizzo della bicicletta è strumentale, è una sorta di capitalismo di Stato. Certo, certo. Quindi, come se si fosse addormentata a questo sistema senza rendersi conto che sta alimentando. Esatto, può essere, la bicicletta deve servire solo come strumento di mobilità della classe operaia che serve solo per produrre. Vabbè, infatti guarda, non abbiamo, allora, però se ci fai caso, infatti, cioè perlomeno oggi non abbiamo parlato minimamente di propaganda per andare al lavoro e di cioè nel senso. No, infatti, però voglio dire, stiamo a parlare comunque di un concetto rivoluzionario, cioè l'utilizzo della bicicletta come strumento di mobilità delle masse. Cioè, se parliamo di questo, come la bicicletta come strumento di riappropriazione dello spazio che ti appartiene. Assolutamente, cioè, assolutamente. Senso, in realtà è semplicemente estendere quello che fai anche a un'altra cosa. Non è niente ed è così eccezionale. Nel senso, poi quando lo fai, cioè è eccezionale il risultato, però quando lo fai non è una cosa. Cioè, ti rendi conto che mano a mano che fai il passaggio è una cosa che va proprio da sé. Esatto, infatti dovremmo parlare con chi vive la bicicletta quotidianamente, ad esempio nel nord Europa, capire che tipo di esperienza fa nel quotidiano chi vive la bicicletta come strumento di vita quotidiana, senza nessuna discriminante rispetto agli altri mezzi. Sarebbe interessante capire che significa basare una vita e la programmazione della propria vita sull'utilizzo della bicicletta, perché io sfido, cioè, quanto può essere più a farlo, quanto può essere più intelligente e meno faticoso andare a fare la spesa in bicicletta con l'apposito carrello costruito lì davanti. Certamente. Oppure fa la consegna, cioè nel senso, io che lavoro, ormai lavorano tutti quanti a fare consegne dal supermercato a casa. Sì. No? Oppure il globo, piuttosto che avercelo sulle spalle e spaccare la vita con ulteriore peso mentre che va. Perché non dotarlo di una cosa? Perché sarebbe meno veloce, sarebbe meno pratico. Ah, ecco, esatto, vedi, bella osservazione. Certo, sarebbe meno veloce, meno pratico e soprattutto sarebbe più costoso. Io non resti forni il mezzo, dovrebbe capisci. Essere assicurato. E naturalmente, no. Purtroppo, di questi qua che sfruttano pure sta roba qua, che invece, ecco, questo è un altro esempio, no? Un altro esempio palese di quello che dicevi, vedete, come anche quello che diceva Coppolo, come te se magna. Anche ma sta certo, roba qua. Prima ne parlavamo con la compagna, ad esempio, i rider che utilizzano la bicicletta, non è che utilizzano la bicicletta per convinzione, utilizzano la bicicletta o perché hanno solo la bicicletta e appena possono acquistare qualcos'altro che non li faccia sudare, la comprano. Cioè, tipo il monopattino elettrico. Tipo il monopattino. A Roma io ho visto più di qualcuno con il monopattino elettrico. Oh, quindi questo che cosa significa? Che la programmazione, la progettazione della propria vita e l'utilizzo della bici come strumento di vita quotidiana non è pensabile oggi a Roma e oggi magari in gran parte dell'Italia. Io, cioè, è questo quello di cui parlavo prima con Coppola, cioè l'utilizzo politico della mentalità che sta dietro alla critica al mass è fondamentale. Cioè tu quindi mi dici non andare a lavorare come riders con la bicicletta, addirittura questo è questo discorso no, un pezzo. No, dai, quello che, no ovviamente no, certo che no, però quello che sto dicendo io è che purtroppo le categorie di quelli che utilizzano la bici, a me non piace categorizzare, però lo dicevamo prima, o l'utilizzo della bici è frutto di un semplice vezzo e quindi di una scelta, tu scegli di utilizzare la bici perché puoi permettertelo semplicemente, oppure è una necessità stringente che spesso, che in una città come Roma non ti dà autonomia, non ti dà, non, cioè è difficile lavorare con la bici a Roma. Cioè, voglio dire, vabbè, però dipende, vedi, cioè, non è vero, non è difficile lavorare con la bici a Roma. Già, in realtà, se fai rider, io penso, non lo so. Guarda, se ti muovi in periferia, io penso invece che in un mondo in cui appunto te forniscono il mezzo, è assicurato, tu sei assicurato, eccetera, eccetera, sia meglio farlo con le biciclette piuttosto che farlo con i motorini. Allora, guarda, sicuramente, cioè in un mondo ideale, cioè se ci fossero le tutele e vivessimo in una nazione dove l'uso della bicicletta è concepito come dovrebbe essere, allora certo, chiaro, se io ho le tutele. Vabbè, comunque noi stiamo partendo a fare i nostri ma piccoli, siccome non è così, siccome non è così e non ci siamo nemmeno vicini, anzi, quello che diceva prima il compagno sul fatto che quando tu vai per strada in bici a fianco alla ciclabile e gli automobilisti si fermano e ti dicono c'è la ciclabile, il codice della strada prevede che se c'è la ciclabile tu devi andare sulla ciclabile. Vabbè, un codice, no. Già facciamo pratica con le regole, figurati. No, codice. Figurati, il codice della strada, la legge che, sì, che no, regola. Personalmente, hai ragione, ho parlato al plurale. Ma però dico, cioè, ci rendiamo conto che questa è comunque un utilizzo strumentale però torniamo a parlare un attimo di quello che dicevamo prima, appunto. Prima Monica ti era incastrata sulla parola muro, che ho usato io, e magari volevamo approfondirla un po' questa cosa qua riferita, sì, esatto, all'ambito della bici, in particolare forse non mi ricordo se era proprio della giornata della Cimona. Sì, si era, ho sentito partiamo da qui, ho sentito in questi giorni, no, in cui ci avvicinavamo a questa Cimona, che c'è stato all'interno della Cimona un po' di discussione intorno a questo tema, e se portare le bandiere palestinesi in Cimona. Mi ha sorpreso che ci ponessimo questa domanda, per un motivo, cioè, che io reputavo un po' scontato, cioè io reputavo scontato che la Cimona non tollerasse alcun muro e alcuna limitazione della libertà di movimento e alcuna apartheid e alcuna oppressione, no? E quindi mi ha stupito che si tornasse a una questione di cui anche in passato si è parlato, cioè se politicizzare la cimona. La cimona è un atto politico. Come tutto quanto quello che facciamo, comprese una canzone che mettiamo, che ascoltiamo, che passiamo. Esatto, che non si tratta di inserire un contenuto. Non solo, ma c'è anche un altro aspetto, cioè siamo tante soggettività e siamo liberi di portare quello che vogliamo dire nella Ciemmona e di attraversare la città con quello che vogliamo dire. E a Bologna anni fa abbiamo fatto una delle nostre critical mass mensili che era molto numerosa, perché c'era assieme a noi il coordinamento migranti, c'erano moltissimi migranti del lab di Via Mattei. E per noi questo non è attribuire un contenuto in più, un messaggio in più alla Cemona, questa è la Cemona, no? È proprio inerente a quello che facciamo quando ci muoviamo in bici e rivendichiamo il nostro spazio, rivendicare uno spazio per tutte e per tutti e senza confini. Ma infatti io credo che questo sia un po' il un problema che affonda le radici dentro a una dinamica che è un po' tutta umana, cioè il fatto che comunque quando un fenomeno diventa ampio e comunque si basa su degli argomenti largamente condivisibili che possono comunque raccogliere una base molto ampia di persone, ciò espone questo a una sorta di di tante idee che collimano sulla base di un'idea larga, condivisibile, ma che però non esclude le differenze sostanziali su molte altre questioni. O magari però invece e poi quindi, le va a mettere in evidenza, e a quel punto è il caso, certo, di prendere distanza. Ma infatti questo è il grande problema dei movimenti apolitici, diciamo, o apartitici, ecco, mettiamola meglio, apartitici. Questo è il grande dilemma, perché sulla base di temi largamente condivisibili ci siamo. Cioè, ad esempio, io credo che parlare di antifascismo in Ciemona, di ecologia, non sia assolutamente divisivo. Però se andiamo già a parlare di Palestina e Israele, sicuramente noi andremo a proporre un argomento fortemente divisivo. Che il termine divisivo per noi qua. Divisivo per noi è fondamentale. Cioè, nel senso, noi, io te l'avevo detto, diciamo, ci cazzeggiamo tutte le domeniche. Noi siamo orgogliosamente divisivi. Noi siamo divisivi. Cioè, all'interno di noi stessi, come collettivo interno della radio, siamo divisivi. Sì, proprio una mina. Una mina pronta a esplodere ogni volta che succede qualsiasi cosa. Esatto, intorno a noi. Siamo in sei. Attualmente siamo in sei. Però insomma il collettivo è allargato, quindi se voi volete unire vi appropinquate, divisivo. Esatto, divisivo, brava, bravissima, divisivo. Questo è un altro tormentone. Divisivo. Comunque, visto che ci apprestiamo a chiudere, che sono le 8 quasi. Andiamo a sentire la produzione fantastica, targata come al solito Kleptofer, che ricordiamo che è il nostro sponsor. Ecco, vedi, partono le campane per accompagnare perfetto. E ci andiamo a sentire appunto una canzone, la produzione del duo Bucolico, il nostro ormai affezionato gruppo che è nato qui, io te l'avevo detto, sulle frequenze di 87.9. Uscirà a breve un EP con tutte quanti i vari singoli, solo grandi successi. Oggi per voi solamente uno, l'ultimo, in lancio mondiale, quindi anche vediamo subito il momento storico. L'effetto che fa anche sulle persone normali. Lo vediamo. Senza discorso. Okay. Diverso ora. Sì, dici Simone, dici, non parlare lontano dal microfono, Simone, dici. Questo però non ce l'avete detto. Quindi andiamo a sentirlo. Il duo Bucolico, Ciclante a pedali, dirige l'orchestra il maestro Vessicchio. Come Beppe Vessicchio. Sempre un sepato. Buon ascolto. Passeggiando in bicicletta, bacia a me. mare senza fretta, la domenica alle 6. Mentre stiamo sulla Tiburtina, ma perché stai in mezzo più di prima? Tagli la strada mentre stai girando. Ora mi sto innervosendo. Bravo, bravo, bravo. Adesso suono il clacson, guarda te. Mo te faccio i fari, te stringo, mo so cazzi amari. E ne dici ti sposti un pochino, la ciclabile è qui vicino, una Piano Mentana e una Fiumicino. Io mi sto sempre più innervosendo ed il pensiero va a quando ero bambino, avevo una bici e noi vedo le mamme, poi le mamme e poi passeggiando in bicicletta accanto a te, guidando senza fretta, sentendoti vicino. Da che parte adesso andiamo? Indovina. Alla Cemona di stasera, se ci vengo parcheggio e scendo, mentre ci arrivo pedalando mi suonano il clacson insultando. Mi sto di nuovo innervosendo. Mi sto di nuovo innervosendo. Sha-la-la-la. Solo merda di qualità, applausoni. E rientriamo su Sha-la-la-la. Sha-la-la-la, incredibile, raga. Grandioso. Noi, guarda, io lo so che insomma, imbarazzante. Non vi aspettava dell'uscita mondiale del duo bucolico. Lo so. Bravi, bravi. Abbiamo riservato tale. Come sempre, grandi genialate, no? Sport. Sì, no, bellissimo, bellissimo. Effettivamente ringraziamo, diciamo, il duo bucolico, il duo bucolico che sì, dicevamo che presto uscirà la compilation, ve lo dobbiamo più che altro perché duo bucolico ve lo dobbiamo, no, cioè esatto, cioè sarebbe ipocrita non lanciarlo al mondo intero, veramente, esatto, cioè esatto, sarebbe proprio una cosa quindi lo leghiamo a Scarcerà anche perché mi sto innervosendo. Mi sto innervosendo e vengo, scendo, parcheggio e vengo, senza della critica alla... parcheggio e vengo, ma pedalando, però è un amore, è un amore che sta nascendo, quello con la bici agli Onda Rossa. Poi diciamo che il 90% no, 90 troppo dai, però già siamo a buona percentuale di persone che ci si muovono, speriamo che siano sempre di più in generale intorno a noi, quindi dai forte. Ma com'è che oggi non stai a fare il conto del 30 per 1000? Quanto ci troviamo? Sarebbe il caso oggi di fare un piccolo excursus. Vediamo, la settimana scorsa abbiamo fatto 65 euro. Oggi? No, la settimana scorsa. Sì, fatto... ci siamo esaltati, ti ricordi? Ci siamo esaltati. Perché no? Perché siamo partiti con mezza piotta, bam! Sono arrivati 50 euro subito, bam! E invece poi vabbè, abbiamo arrancato fino a 65, però poteva andare peggio, ecco. Oh, guarda, abbiamo fatto un botto stasettimana. Stasettimana abbiamo fatto bravi gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ringraziamo chi ha sottoscritto perché oggi abbiamo fatto un saltino, oggi non lo so quanto abbiamo fatto, però abbiamo fatto un saltino, insomma abbiamo scavallato i 5.000, stiamo a 6.650, ce ne mancano ancora un bel po', arriva a 30.000. 30 euro per 1000 radioascoltatori e radioascoltatrici. E radioascoltatori. Uno o due. Potete donare anche di più se volete, ovviamente. Al momento, insomma, se fate il 30 per 1000, vi spediamo la copia digitale del, della tessera, che è molto molto bella. Il disegno ve l'ha fatto R. Push, che è un insomma un disegnatore sardo, che ringraziamo, molto molto figa, veramente bellissima. È quella che l'altro anno si vedeva un pezzettino del banner del abbonamento. Quest'anno insomma invece vi spediamo la tesserina, che è molto figa. E dai, e tutte quante le informazioni, tutti quanti i podcast su www.narossa.info. E in generale la radio trasmette su 87.9, salvo complicazioni che qualche volta succedono, proprio per non farle succedere, cioè abbiamo bisogno di mettere computer più potenti, fili e cavetti nuovi, quindi sì, esatto. Le rivoluzioni costano. No, a parte che le rivoluzioni costano, quando ci chiamate per dice non si sente la radio, i cavi. Benissimo, è perché non sottoscrivete abbastanza, esatto. Facciamo fatica a arrivare a fine dell'anno, figurate a i cavi costano, cioè, anche senso, se ce li autoproduciamo in realtà. Però insomma mettiamo a posto un po' di cosette, le devo mettere a posto insomma. Quindi ci sentiamo la settimana prossima, sempre alle 18 con Io te l'avevo detto. Salutiamo, perché penso che sia tutto. Ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi, in particolare Gabri e ciao e Moi. È stato, ragazzi, è stato un piacere. Bombe e applausi. Io per il semiciclo e ciao Salvo. Ciao Salvo sempre. Puri ancora a rotto. Infatti, grazie mille, grazie. Un abbraccio a chi insomma l'ascolta privato della libertà. Esatto, chi non gode della propria libertà, come al solito un abbraccione, e speriamo di poterci insomma ritrovare tutti liberi. Speriamo di aver fatto fatto risate come ogni domenica, ci abbiamo provato. Buona settimana resistente a tutte le compagne, a tutti i compagni, a tutti, tutte le sorelle e tutti i fratelli, e dagli forte. Allora, io te l'avevo detto, vi saluta. Ciao, vi lasciamo con una canzone che ha scelto Gabri, Bank Robber, quindi dagli forte. Ciao!